Gentili colleghi all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pronto? Allora, il Santo Padre, a quanto apprende la DN Cronos, ha telefonato a Marco Pannella e il leader radicale ha così interrotto lo sciopero della sete proseguito nonostante l'intervento di martedì scorso alla aorta addominale. Questa la DN Cronos delle 16:57. Cioè, ma ti pare possibile, caro David, che con tutte le cose che un papa dovrebbe fare, no? Cioè, è il papa, cioè il capo di una comunità di cattolici in tutto il mondo, il signor papa. Il papa perde tempo, perché ormai le telefonate del papa sono inflazionate, chiama tutti. Può darsi pure che una sera di queste chiama la zanzara il papa. Pronto, la zanzara? E questo lo escludo, diciamo, no? Chiama la zanzara. Ma sicuro, prima o poi ci chiamerà. Basta mettersi, che ne so, inventarsi uno sciopero della fame, della sete, fare qualcosa di drammatico. Beh, lui sa, il Santo Padre, che è un simbolo. Ecco, per esempio, potrebbe chiamare oggi, che tu stai male, che tu non hai voce, molto, che sei distrutto, eccetera, eccetera. Potrebbe molto chiamare male, per dire qualcosa a Parenzo, anzi. Ma io sono un infedele, no? No, ma allora, laico, santo, laico, ma santo. Allora, ma ti pare possibile, con tutte le cose che ha da fare il Papa, che si mette a chiamare il signor Pannella? Dai, su, è veramente, questo Vaticano esce veramente sputtanato da questa vicenda. Tra l'altro, nemmeno se lo fila Pannella, perché Pannella non rinuncia allo sciopero della sete, al famoso satyagraha, non rinuncia allo sciopero della sete, ma beve solamente un caffè e poi ricomincia a fare lo sciopero. C'è poi una telefonata che non ha avuto nessun esito. E poi ha ragione il signor Mario Giordano, oggi ho letto un articolo sul Libero, amico mio. Ma come? Ti metti a fumare in ospedale dicendo quella boiata pazzesca che l'abbiamo detto anche noi un po' ieri. Con l'accordo dei medici. Sì, che fa bene alla saliva, alla salivazione. Vabbè, ma questo sta morendo. Nei momenti di sciopero della sete particolarmente gravi scoprimmo a Madrid tanti anni fa con il medico Ennio Bullino che fumando, l'effetto più evidente dello sciopero della sete dell'asma era neutralizzato, perché fumando, e fumando molto, tornava la saliva che era scomparsa. Silvio forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre, Silvio fiducia ci dà, Silvio per noi, futuro e presente. Nobile e giusto, tu ci piaci per questo, sei il pensiero che ci... È una grande struttura, la faccio sorridere se le dico che ho visto alcune fotografie dei giardini molto grandi. Beh, lì già ci sarà molto da fare per uno che ama la natura come la amo io, ma poi nei confronti delle persone anziane potrò fare tipi di intervento, immagino, non lo so, dei momenti di dialogo politico, culturale, storico, oppure delle cose anche più umili. Non sono, diciamo, spaventato di nulla, credo e spero di poter portare conforto, un conforto morale e magari anche un conforto concreto. Riparte da qua, diventa realtà. I dialoghi politici di Berlusconi all'interno della struttura dove da lunedì andrà a scontare la sua pena in gruppi di 20 persone, farà dei dialoghi politici con gli anziani e qualche aiuto concreto. Storici, cosa vuol dire? Ma che ne so, racconterà la storia di questo paese, gli ultimi 20 anni. Ma sarà spettacolare, sarà spettacolare, ragazzi, spettacolare. Berlusconi da Vespa, ieri era un po' addormentato all'inizio, mi sembrava un po' così, tenuto, addormentato, quasi narcotizzato. Però poi alla fine si è ripreso. Beh, è sorprendente questa cosa su Travaglio, al di là di tutte le cose, sì, i quattro colpi di Stato, non votiamo la riforma del Senato. Ma questo sta morendo oggi, Parenzo, che c'ha? Beh, sta... no, adesso questo proprio splendi, no. Però. Vabbè, cerca di riprenderti però, dai. Travaglio è il giornalista più intelligente d'Italia, senti. Ah no, il Travaglio, sì. No, voglio dire che è cattivo, è un genio del male, ma è in assoluto il giornalista più intelligente che abbia mai calcato la scena del giornalismo italiano. Un monumento, ragazzi. Qua potete bisogna fare essere obiettivi, è così. Secondo te un po' Vespa rosicava? Parenzo? Stavo per dirlo, pensa come c'è rimasto quello che gli ha fatto la scrivania, che gli ha fatto far contratto. La domanda più insidiosa che gli ha fatto è: qual è stato il suo più grande successo, presidente? Vabbè, adesso non trattare così Vespa, sei sempre il solito, ma non è vero, dai, su. Pensa come ma ogni tanto le domande le fa, non è vero che non le fa, non è che adesso, su, non ti mettere a fare il superiore. No, le è fa. Vero, no, no, è dai, vero. Su, non domande ti mettere. Insidiose, è vero, è vero. Vabbè, allora invece le domande insidiose le fai tu, dai, su. No. Dai, su, non sei meglio di Vespa tu, dai. E chi dice niente? E allora, diversi. Non fare il coso, non fare il professorone, stili, dai, su. Stili diversi. Ma che stili, che c'entra lo stile, dai, su. Oh, sempre da ieri, vabbè, Renzi da rottamatore a simpatico tassatore, vabbè. Sentiamo questa, dai. La musica va con un unico canto. Ma guardi, Renzi è una persona certamente simpatica, è un grandissimo comunicatore, è un politico coraggioso quasi fino alla temerarietà e si è presentato come un simpatico rottamatore del vecchio. Adesso a poco entrando anche nel teatrino della politica si sta, ripeto, poco a poco trasformando in un simpatico tassatore, perché tutto quello che finora è venuto fuori dalla sua attività di governo sono tassi. Buona mattina, mi sono alzato. Ma perché mi avete messo questa canzone terrificante? Siete matti? No, tu non cantare oggi. Allora, io oggi non ho nulla da festeggiare. Io non ho mai festeggiato il 25 aprile perché è sempre stata una festa presidiata dai comunisti. Diciamo la verità, sempre è stata presidiata dai comunisti il 25 aprile. Io non ho mai festeggiato, come tutte le feste di parte. Non ho mai. È sempre stata festeggiata dai comunisti. Diciamo la verità, è così. No, non è una stupidaggine. Comunque, la Boldrini non ha perso occasione. Sì, sempre, dai. La Boldrini, stai zitto un attimo che abbiamo già un ospite. La Boldrini non ha perso occasione per attaccare Grillo dicendo: vergogna, non si gioca con la Shoah. Quella memoria non deve mai smarrirsi e che soprattutto non deve essere mai offesa. Quella memoria non può essere offesa, come invece è accaduto ancora nei giorni scorsi quando qualcuno ha inteso giocare con il ricordo della Shoah e dei campi di sterminio. Vergogna! Vergogna! Questo nell'Italia democratica. Ma tutti fanno propaganda, cara Boldrini. Siamo qui con Daniela Santanchè, buonasera. Pronto? Ciao a lei, a tutti. Dove si trova? Sta festeggiando il 25 aprile? Ma no, io è una festa che il 25 aprile onestamente non ho niente da festeggiare. Non la sente come sua, diciamo, ecco. Come festa. Ma no. Come me, sento come me. Sento Natale, sento altre ricorrenze. Non c'è da vantarsi, diciamo. La Pasqua, vuol dire l'unità d'Italia. Però il 25 aprile no. 25 aprile è una ricorrenza, una festa che non sento. Ma come mai? Perché come ho detto io è sempre stata, come dire, no? Presidiare. No, perché non mi piace vedere, cioè, le bandiere rosse. No, vedere una parte dell'Italia contro un'altra parte dell'Italia. Che non è niente da pensare, voglio dire, col passato, ma non mi piace pensare che c'era una parte di italiani da una parte dall'altra, che si ammazzavano, che si... Non mi piace, ecco, preferisco festeggiare altre ricorrenze. Ma perché per lei i repubblichini, per lei i repubblichini erano uguali a quelli che facevano la resistenza? Non è una questione di essere uguali. No, per dire com'è. Non mi piace il concetto, l'idea che italiani, tutti italiani, si scontravano sino alla morte gli uni contro gli altri. Io direi che consiglierei a tal proposito di leggere Pansa. Sì. Ma che c'entra? E mi sembra che Pansa è stato molto esplicativo e molto completo. Però, senta, che voglio chiedere una cosa. Passiamo Parenzo che dice che Parenzo è un cantore. Pansa è un po' alto per lui. È un cantore della resistenza vecchio stampo, no, Parenzo. Capisco che Parenzo voglio dire le guarda cara, da una parte c'erano i fascisti, dall'altra parte ci voleva la democrazia e la libertà. Dice Parenzo che da una parte c'erano i fascisti, dall'altra c'erano i fascisti, dall'altra c'era chi voleva democrazia e libertà, tra cui Tina Anselmi che era democristiana. Così dice Parenzo, lei non la pensa così? Da una parte c'erano i fascisti, dall'altra parte chi? Quello che dice Parenzo io non è che proprio... Vabbè, adesso al di là di Parenzo, questo io lo dico. No, anche io, perché sentivo che prima così era un po' avvicinato, voleva paragonarsi a Vespo, aveva un sussulto di critica nei confronti di Vespo. Sì, ha criticato Vespo, vabbè, adesso... Ma sì, è rosicone, ma d'altra parte voglio dire, fa parte di quella gente che ha invidia, odio, rancore. Ma chi? Invece ma chi? Noi no, però, però ha detto, in questo momento ha detto che da una parte c'erano quelli, i fascisti, dall'altra parte c'erano quelli che volevano la libertà, dice Parenzo. Lei non è d'accordo? Beh, è così. Vabbè, adesso infatti i fascisti non ci sono più e quindi voglio non dire... Non ha senso festeggiare il 25 aprile, dice lei. Dall'altra parte non mi sembra che ci fossero solo tanti, però voglio dire, siamo nel 2014... Cioè bisognerebbe cancellarla come festa, secondo lei? Non ci sono più i partigiani, voglio dire, non ci sono più leggere Pansa, che mi sembra abbia avuto... D'accordo, questo l'abbiamo detto, ma secondo lei bisogna cancellarla sta festa del 25 aprile? Se fosse per me, voglio dire, una festa che non si cancellerebbe. C'è già la festa dell'Unità d'Italia e mi sembra che dovremmo tenere nel nostro cuore, nel nostro solo animo, quella. La festa dell'Unità d'Italia. Poi, per la carità, se qualcuno è contento. Vabbè. Perché secondo lei in Francia... la libertà di pensiero e di espressione. Perché secondo lei in Francia cancellano il 14 luglio. Ma che c'entra? Il 14 luglio è una cosa diversa dal 25 aprile, dai. È la stessa cosa. Ma non è la stessa cosa, Davide, dai. Alla febbre, Parenzo, oggi. Ma sì, alla febbre, purtroppo, sì. Il 25 aprile col 14 luglio, la febbre, cos'ha? È la stessa cosa. Sono antibiotici. No, piccola, no. Piccola differenza è che siccome qui i fascisti ci sono ancora, allora è difficile riconoscere. Ma dove stanno sti fascisti, scusa? Nella quale sono stati. Ma dove stanno? Li vedi solo tu? Cioè, ci sono quelli che si dichiarano fascisti così per ridere. Beh, ieri hai portato la feccia in studio, quindi ma in studio non c'era nessuna feccia, c'era una persona collegata che ha detto di essere fascista, ma ho capito, ma come uno può dire di essere cavernicolo, diciamo, no? Come uno la può feccia. Dire vabbè, ho capito, ma non c'era nessuno in realtà, vabbè, comunque voglio chiedere, vabbè, ma scegliamo a Parenzo il dosaggio dei termini. Voglio chiedere a Daniela Santacchè se feccia, Berlusconi feccia, che feccia. Se Berlusconi che lunedì inizia i servizi sociali, la cosa le mette un po' tristezza o no? Mette enorme tristezza, mi mette tristezza prima di tutto da italiana, prima ancora di essere un dirigente del nostro movimento politico Forza Italia. La scampata, dicono alcuni. Voglio dire, combatterei per chiunque da innocente sia sottoposto a una pena, perché trovo che questa è la cosa peggiore che si possa fare un essere umano, quindi contenta non posso essere, ma abbiamo tutti una grande forza, perché è la forza della verità. Però il Papa che ha chiamato Pannella potrebbe chiamare anche Berlusconi per solidarietà. Io col Papa non riesco a essere a questo livello, per cui il Papa si ascolta e quello che fa e quello che dice va bene. Eccoci qui, la Zanzara, anche oggi 25 aprile, in diretta 800240024 con Daniela Santanchè, Forza Italia. Lei qualche mese fa diceva che Berlusconi non è roba da servizi sociali, meglio quasi la galera. Continua a pensare allo stesso modo, cioè che è un'umiliazione più grande della galera per Berlusconi fare i servizi sociali? rieducare io il Presidente del Consiglio, che è stato Presidente del Consiglio del nostro paese, voglio dire, 4 volte, non mi sembra la cosa più giusta, che ha diretto, voglio dire, 8 G8, mi sembra veramente una grande ipocrisia, per cui però c'è una condanna. Il mio pensiero da sempre, e quindi io non cambierò mai il mio giudizio. Cioè, secondo lei era più coerente andare in galera? No, era più giusto che un innocente non fosse condannato. Vabbè, quello, vabbè, d'accordo. C'è una sentenza. Però lo capisco che per voi. No, ma in altri paesi dicono alcuni: si va in galera per cose di questo tipo, cioè proprio con le manette. Ma certo, ma si va in galera ed è giusto che si vada in galera. Cioè, per ma quei reati lì si deve andare in galera. Processo, quando c'è un giusto processo, quando ci sono dei magistrati che fanno, come la maggior parte dei magistrati d'Italia, il loro lavoro super partes, che non appartengono a nessuna fazione politica, è giusto. Siccome qua non parliamo di un giusto processo, non possiamo parlare di una giusta condanna. Senta, ma lei... Guarda che il tempo vedrà che dimostrerà tutto questo. Lei non... perché non fa un po' di per solidarietà? Qualcuno ha lanciato l'idea di fare i servizi sociali come Berlusconi. Lei farebbe i servizi sociali al posto di Berlusconi, se fosse possibile? Ma se questo servirebbe per dare la libertà a Berlusconi, una servisse, non avrei assolutamente nessun problema, però non serve, e quindi voglio dire... Toti ha detto che tutti i candidati dovrebbero fare per solidarietà un po' di servizi sociali come Berlusconi. Ma guardi, ognuno è libero di dire quello che vuole. Io stupidaggine, trovo che la cosa che mi stupisce molto, che in questo paese sta passando il concetto che a Berlusconi gli è andata bene con questo affidamento ai servizi sociali. Il fatto che abbia l'agibilità politica, un dibattito al quale io rispondo con forza, dicendo che agibilità politica... Beh, poteva andare peggio, no? Poteva andare peggio. Agibilità politica, ma secondo lei è una persona che di fatto si toglie in parte la libertà di espressione, che non può dire esattamente tutto quello che pensa, perché è una spada di Damocle sulla propria testa. Una parola più, una parola in meno, a lei da italiano non fa caponare la pelle. No, io però dico... fatta male, ma sono fatta che così. Però io dico, è andata, poteva andare peggio, quello sicuramente. Ma non è questo il punto, capisce? È proprio sbagliato. Ho capito, senta, parliamo di un'altra cosa, ma la Boschi che ha criticato Berlusconi, che dice che sulla vicenda delle riforme fa campagna elettorale dicendo che non va bene la riforma del Senato, non si è un po' montata la testa secondo lei? Ma no, io rispondo alla Boschi che non possono fare la loro campagna elettorale usando, voglio dire, l'accordo sulle riforme. Cioè tutti fanno campagna elettorale, insomma, alla fine. Ma certo, ma come giusto che sia, io trovo che sarebbe molto intelligente se adesso che ormai siamo a maggio praticamente si fa un attimo una tregua sulle riforme, tenendo sempre ben presente che noi rispetteremo i patti, anzi io dico che le dobbiamo tregua sulle riforme a maggio. Perché scusi, è la sinistra che è venuta sulle nostre posizioni, perché noi queste cose le avevamo già fatte. Tregua fino a maggio, le dico. No, ma dico, ognuno fa la propria campagna elettorale e poi se ne riparla dopo il 25. Non è che Renzi, cioè, si fa la legge mancia degli 80 euro che è fittizia per una parte, per qualche milione di italiane, che poi gli toglie i soldi. Adesso vuole fare subito, prima del 25 di maggio, la riforma del Senato per poterla portare come bandiera in giro per l'Italia delle sue capacità e del partito del quale lui è segretario. E noi non possiamo dire niente. E noi non possiamo dire niente. Invece, voglio dire, insomma, allora va bene tutto, ma. Ma lei piace la Boschi, perché pare che Berlusconi sia un po' innamorato di questa figura, no, dal punto di vista, come dire, politico. La trovo, la Boschi mi piace molto e la trovo anche onestamente brava perché è catapultata lì, prima legislatura, non ha mai fatto il ministro, e la vedo in aula, si destreggia bene, e quindi voglio dire, non capisco fa onore alle donne. No, non capisco perché ci debba sempre essere il connubio che se una bella deve essere anche cretina. No, chi l'ha detto? Questo non ci sto. Però chi l'ha detto? No, io non lo dico mai, anzi al contrario, io sono contro le quote perché appunto mettono le donne in un ghetto, io sono per la... Ma io sa quanto mi sono spesa, perché però voglio dire, è una che vorreste magari fosse con Forza Italia, dice uno come la Boschi, no? No, no, che stia pure lì, che va bene. No, però magari avercela. Noi siamo per molti, ma non per tutti. Comunque le piace, è una brava. Ma io guardi, intanto mi piacerebbe che le donne imparassero a non criticare le altre donne. Sarebbe vabbè, quello se uno dice una stupidaggine, anche una donna può fare osservare una cosa del genere. Sì, ma sa, guardi che noi donne siamo delle iene, eh? Già se una ha avuto non il merito ma la fortuna di nascere carina, e allora gli si pioppano avanti deficienze culturali, intellettuali. Però dice che vuole sposarsi e avere tre figli, perché la sera torna da sola a casa, che vorrebbe trovare un compagno e fare tre figli, vabbè. Ma questo mi sembra una cosa assolutamente condivisibile, perché senta, poi lei... la vita senza l'amore... È poca roba. Ma Travaglio condivide quello che ha detto Berlusconi su Travaglio col giornalista? Ma guardi, anche ieri Berlusconi ha dimostrato di essere quello che è. No, ma al di là di quello che ha detto Berlusconi, ma Travaglio, lei condivide quello che ha detto su Travaglio o no? Sì, io Travaglio lo trovo sicuramente un bravissimo giornalista. Peraltro un giornalista che è di destra, sì, come pensiere, come costruzione, e poi in odio a Berlusconi ha fatto il salto della quaglia. Ma comunque lui... Al di là di questo è il numero uno anche secondo lei? È dei nostri, è dei nostri. Ma beh, dei vostri adesso. Cavolo, ma che dei vostri? Travaglio. Ma certo! Ma dei vostri in che senso? Non è mica lei presa... che se fosse che... Ma è lei che si è presa gli antibiotici, non Parenzo. No, è in odio a Berlusconi che ha fatto il salto della quaglia. Se non ci fosse Berlusconi sarebbe dalla parte nostra. Come? Ma guarda che Travaglio poi, voglio dire, ha partecipato alla quasi vittoria del presidente Berlusconi. In che senso? Nelle elezioni, cioè che... Travaglio lavora per noi. Le dice lei, indirettamente lavora per noi. Però se non ci fosse Berlusconi sarebbe con voi, le dice. Sì, con voi, comunque. No, con la... è culturalmente, intellettualmente... è di destra, su questo sono certa di non poter essere Anelliano, che poi dopo possiamo. Cosa dice la zanzarina? Zanzarina dice, cara, che non è male, Anelliano, che è una roba diversa. Vabbè, comunque culturalmente dice, mamma, tu vuoi sempre precisare delle cose inutili, culturalmente lui è di destra, e poi io domando, se non ci fosse Berlusconi voterebbe anche Forza Italia secondo lei? Ma sì, ma poi scusi, siamo tutti uomini di mondo, lui facendo così mi sembra che anche se la passi bene economicamente nella vita. Cioè lei dice, l'antiberlusconismo ci ha fatto un mestiere, lo chiami scemo, ha guadagnato, è diventato ricchissimo con l'antiberlusconismo, e lo chiamiamo cretino. Uno che, voglio dire, sa individuare colui che lo farà diventare famoso e ricco, un uomo d'affari, un perfetto uomo d'affari. I cretini sono altri. Ma mi dà un giudizio definitivo su Bondi, questa storia qua che Forza Italia ha fallito in piena campagna elettorale? Bondi, una roba, Bondi, un sabotatore, che cos'è? Il rispetto che deve meritare Bondi. Vabbè, lasciamo Bondi perdere il rispetto, parliamo di cose. Questo l'ha detto Berlusconi. Ma che c'è sotto? Mi dicono che ci sia sotto qualche incarico mancato alla sua compagna, è vero? Questo assolutamente non lo so, e sarebbe... Ma questo lo dico io. Sarebbe proprio brutto per Bondi, io non ci posso credere. Ma lo esclude? Bondi non lo può escludere. Un uomo. Bondi, si figuri se si fa soggiogare da una donna. Questo lei lo dice in un modo un po' ironico, devo dire la verità. Perché secondo lei voi maschietti siete il prodotto di quello che vogliamo le donne? In questo caso credo che ci sia un elemento del genere, nel caso in questione. Solo in questo caso. Nel caso in questione non parliamo c'è. Di persone, parliamo di principi. Di principi. Oggi... Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. Benvenuta nel mio spazio sotto il salice. Non stare lì così, mettiti comoda. Sull'erba batto spesso e ti si corica. A proposito di Razzi, caro David, ormai impazza ovunque, l'amico Antonio Razzi. Addirittura si è messo a cantare Bella Ciao. Adesso si arriverà con il nostro contributo fattivo, ovviamente, con il nostro finirà che monterà su un asino, non so che cosa può fare, spogliarsi in diretta. Ma dove ha cantato Bella Ciao? Ah, non lo so, credo a Class TV, una cosa del genere. Sentiamo. Com'è che è la canzone? O partigiano? Io non... Portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Ciao, no. Partigiano, ciao, portami via. Venuta nel mio spazio sotto il salice. Capito? Io ancora. Cosa ormai? Secondo me potrebbe il suo nuovo lavoro potrebbe essere quello di invitarlo alle feste di laurea, no? Puoi fare una sorpresa, un amico. A pagamento, magari. Sì, si cazzo, ci bacio razzi. Ah, vabbè, dai, grande, che bel regalo. Esci fuori da una torta, no? Da una torta. Ve lo dico a voi due, d'amico. Fatevi i cazzi vostri. Quello mai, amico mio, quello mai. Allora, insieme a Franco Belkis nell'abitacolo, ovviamente non poteva mancare, eh? All'estero la Boschi, insomma, non è la Merkel, è più buona, questo vuole dire... Anche perché quando esci fuori all'estero ci può rappresentare anche il Made in Italy e anche una bella donna. Oltre al design, oltre ai nostri prodotti agricoli, però quando va a parlare con i grandi, o Putin, o Obama, eccetera, eccetera, come si dice, la Boschi non è la Merkel. Eh no. È molta differenza. Differenza almeno di stile. Quando va a parlare all'estero, a parte che non ci va all'estero perché è ministro delle riforme dei rapporti col Parlamento, cioè ci andrà, ma insomma non ci va per ruoli, come dire, non è che va a incontrare la Merkel o va a incontrare i capi di Stato. E poi dice non è la Merkel, è un altro stile. Vabbè, sentiamo TG3, va, che sarà dedicato alla resistenza, eccetera. Io ancora non mi capacito del fatto che Papa Bergoglio, con tutto quello che c'è da fare in Italia, in Europa, nel mondo, io credo che, tra l'altro temo che sia uno scherzo, temo sia uno scherzo. Comunque, non mi capacito che Papa Bergoglio perda 20 minuti per parlare al telefono col pannellone. Non me ne capacito, È un protagonista. Cioè, siamo arrivati politica. Veramente in basso. Siamo arrivati in basso. Ma perché devi decidere? Cioè, il Vaticano è sprofondato in basso e il titolare del soglio pontificio chiama Pannella, che peraltro fa lo sciopero della sete, cosa che gli italiani non conoscono perché non si capisce più perché cosa. Sì, per la solita cosa, la situazione nelle carceri, eccetera, eccetera. Cioè, ormai sono talmente tanti gli scioperi della fame e della sete che ormai non si capisce più il motivo, capito? Ma questo lo dico perché è una cosa grave questa qua, non si capisce più il motivo, cioè ha completamente cancellato l'importanza di uno sciopero della fame o della sete, cancellato, morto, finito. Nonostante questo il Papa chiama 20 minuti al telefono per convincerlo a smettere, forse, lui prende un caffè e ricomincia lo sciopero della sete. Cosa pazzesca, dai. Non capisci un cazzo. Io non capirò niente, però è la mia opinione, che bisogna rispettarla, caro Marco. Tu invece sfasci lo studio. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Le celebrazioni del 25 aprile del Napolitano, valori incancellabili, prudenza su Italia e la difesa, Renzi grazie ai ribelli di allora. Domani incontro tra Renzi e il capo dello Stato al Quirinale, la Boschi, Berlusconi fa campagna elettorale, Deborah Serracchiani al TG3. Il Papa telefona a Pannella, abbiamo parlato di amnistia e sospende lo sciopero della sete anche se solo per un caffè, ma accetterà due trasfusioni. Fitch ora promuove l'Italia, la recessione è finita, prospettive economiche in miglioramento, ma le borse giù per la crisi ucraina. Tensione in Ucraina, 7 osservatori OXE sequestrati dai filorussi, colpito un elicottero di Kiev, Obama e i leader europei, nuove sanzioni. La Cassazione, un nuovo processo per la Thyssen, pene da ricalcolare ma non più pesanti di quelle dell'appello, e scoppia la rabbia dei parenti. Quasi tutto pronto a Roma per la canonizzazione dei due papi, migliaia di pellegrini già arrivati, alberghi e campeggi presi d'assalto. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito. Ma non mi mordere il dito, la voglia ce l'ho. Cruciani, stai attento come fa con me. Non mi macchiare il mio vestito e non mi mordere il dito. Allora, ti faccio sentire qualcosa di pregiatissimo, caro David, anche se questa sera non sei in forma. Io ti capisco perché altre volte sono stato nelle tue condizioni. Dunque, no, sono nulla questo. Un po'. No, no, malato, cerca di tirarti su, cioè qui ci vuole carica, dobbiamo fare battaglia, non è che si può stare così a pettinare le bambole. Allora, che cosa devo fare? No, non ti, cerca di tirarti su, così cerca di darmi una mano. Stefania Nobile, la tua amica Stefania Nobile e Vanna Marchi. Cosa hai combinato quella adorabile coppia di signore? Quell'adorabile coppia. Sai che c'è un canale YouTube, no? Dove ogni tanto dicono qualcosa, in particolare Vanna Marchi. E... Come chiama il canale? Non lo so, un canale YouTube, non c'è un canale. Allora, senti, questa qua ti fa andare ai matti, cioè ti fa venire il sangue al cervello questa roba, appena la senti. Il sangue al cervello. Allora, fossi un uomo, cioè la questione è i lavavetri che si fermano ai semafori. Sì, i lavavetri, sì. Senti. Ma sti lavavetri, Sono una roba che guarda, sono una roba. Io fossi un uomo, giuro, ne picchierei 10 al giorno. Sì. 10, non uno. Anche perché poi sono lo fanno di prepotenza. Veramente. Ti spaccano i tergicristalli. Sono omicidiali. D'accordo? Aspetta, aspetta. Non ti scatenare, aspetta, aspetta. Aspetta, guarda. C'è altro, aspetta. Aspetta, caricati bene, caricati a pallettoni bene. Sì. Ancora, senti. Io una volta ho visto uno che faceva la pipì dentro la bottiglia e poi lavava i vetri. Sì, sì, vicino a... Visto io, eh? No, no, quindi, cioè, voglio dire, lo dico. Vabbè, perché l'ho visto io. Basta chiedersi quindi... dove pigliano l'acqua, cioè dai, un giorno intero. Veramente. Dove la prendono l'acqua. Aspetta, non è finita, non è finita. A Gioia, credo che sia Gioia, Melchiorre Gioia, Milano. Via, via Melchiorre Gioia, una via molto lunga. Che è vicino alla stazione a Milano e basta con sta tosse. Su, faccio le onoranze buone, se hai bisogno ho anche prezzi buoni, capito? Ci sono le onoranze funebri per te. Melchiorre Gioia, che succede? Nobile Marchi, sentiamo. C'è l'incrocio di Melchiorre Gioia, che ce ne sono a milioni. Paura io, a milioni. Paura, paura. Dice, va, sì. Devo aver paura della casba se vado in Egitto così. No, io ho paura di Melchiorre Gioia. Infatti. Io mi fermo sempre 20 metri prima e se lo vedo arrivare, guardo delle sgasate, come dire, avvicinati che ti stendo. Allora, picchierei lavavetri 10 al giorno, stenderei un lavavetri con la macchina e poi raccontano un episodio di aver visto più volte i lavavetri che pisciano dentro la bottiglia per lavare i vetri. Il commento, guarda, di Parenzo, il commento magari, di Parenzo. Magari i civilissimi lavavetri, beh, civilissimi, adesso, civilissimi, usassero quella che loro chiamano urina per buttargliela sulla macchina quando loro passano. È molto più nobile quello, molto più nobile. Cosa? Stefania, non Stefania, ma è più nobile il lavoro dei lavavetri che non quelle due megere, quelle due megere che hanno rovinato la vita a centinaia di persone, guarda. Non si no, però per... scusate, ma a te non ti viene ogni tanto la voglia di menare le mani a un lavavetri, a un vulavà? A me viene, guarda, io posso tollerare tutto, tutto. Certamente mi può dar fastidio l'accattone, la lavavetri. Vabbè, ma detto dalla nobile e dalla Marchi, che dici tu? Detto dalla nobile e dalla Marchi, che hanno rovinato davvero la vita, non come un lavavetri che magari ti può infastidire di per lì. Detto da quelle due megere, fa schifo proprio, cioè non dovrebbero aver neanche il diritto di neanche di poi li stendo con la macchina. Ma che c'è questa? Allora, stasera Parenzo è come Pannella, tra l'altro, è uguale, eh? Uguale a Pannella. Beh, un momento, quello è stato anche operato al cuore. No, io, ma sei uguale per la voce rauca e tutto, cioè. Cucù, scusate se vi ho disturbati. E basta con sta tosse al telefono. E mettiti dietro la bocca almeno, no? Così davanti sul microfono al telefonino. Abbi pazienza. L'unico che lavora il 25 aprile è andato dietro, deve essere in piazza. Ma a festeggiare. Ho capito, ma quale piazza a festeggiare? La ma libertà, figurati, eccetera. Sì, la libertà. La libertà. Grazie agli americani ce l'abbiamo, non ai comunisti. Francesco da Milano, certo, dai. No, solo grazie agli americani. Francesco anche da Milano. Certo. Il Nord Italia, dai, smettila, dai, su. Volevo, il Nord Italia, cioè, il Nord Italia, adesso è diventato la stratega della resistenza. No, basta leggere due libri, però. Sì, barba, no, li ho letti. In barba chi vi dice che ho fatto un cazzo? Oggi voi lavorate, io sono appena uscito da lavoro e anche Parenzo, che è sempre criticato, è venuto a lavorare e sta pure male. Altri invece si sarebbero messi in malattia, magari. No, ma è inutile che si mette in malattia, perché tanto non cambia nulla che si mette in malattia. Vabbè, Francesco, quindi, dai, su, forza. No, io ti volevo dire, se domani ti chiama Squinzi e ti dice, caro dottor Cruciani, io sentiamo ti la do stronzata. 80 euro in più in busta paga, tu che fai, non te le prendi? Ma sì, ma me ne fotto però, cioè non mi cambia la vita, non mi cambia nulla. Lo so, pure io non ce l'ho il contributo. Ma che c'entra poi? Che paragone è questo qua? È paragone perché tu comunque hai criticato sempre questi 80 euro di reddito. Io non ne godo di questi 80 euro, guadagno più di 1500 euro, però io me li sarei presi. Ma certo, ma per prendersene non c'è dubbio. Ma a me non cambiano nulla, può darsi che a qualcuno che guadagni 1.400-1.500 in apparenza può darsi che gli cambi qualcosa, in apparenza. Poi bisogna vedere se te li fregano da un'altra parte, perché c'è la tassazione sulle rendite finanziarie, c'è l'aumento delle tasse sulla casa, forse ci saranno altre tasse, forse sulla benzina, eccetera, eccetera, e bisogna vedere bene se questi 80 euro poi restano 80 euro. Certo, sul momento l'effetto shock di vedere nella busta paga magari scritto 80 euro ridati può convincere qualcuno che sia una cosa straordinaria, però poi i soldi potrebbero uscire da un'altra parte, capito? Sì, sì, ma io me li sarei presi comunque. Ma, poi, ma certo, ma non è che si possono rifiutare, te li danno che fare rifiuti, che vuol dire? Cioè, no, io i soldi comunque escono lo stesso, a prescindere, quindi avere qualcosa in più sicuramente non guasta, e secondo me a nessuno, sia al milionario che al poveraccio è morto di fame. Va bene, ma Antonio, sì, che volevi dire ancora? Dimmi. Se riuscite a darci un po' più di Mauro da Mantova, un po' più di quell'altro pazzo da Chieti, qualche neoborbonico, qualche barone nero. Vabbè, amico mio, io, che devo fare io? Cioè, io lavoro sempre nei festivi, pure come voi, io mi faccio 130 chilometri, io ho bisogno di questi qua perché comunque mi faccio il traffico io. E guarda, quindi, le diamo il numero, così si richiama lei. Mi allietano nel viaggio a casa lavoro. Cioè, Parenzo ha detto, ma oggi devo tradurre Parenzo, ha detto se vuole le diamo il numero di telefono di questi malati così. Di mente. Così sì, almeno si diverte da solo al telefono con questi qua. Solo che magari non rendono con lei. Io lo so, ma che dobbiamo fare? Una trasmissione tutta di Frick, di matti? Magari sì, che devo ogni giorno. Può darsi che abbia ragione lei, Parenzo, e tu che protesti contro questa cosa. Può darsi che abbia ragione l'ascoltatore da Milano, Francesco, che parla seriamente degli 80 euro e poi dice io voglio i matti, voglio sentire magari il signor Saia oggi, perché no? Magari, Parenzo, però, il signor Saia oggi, come può mancare il signor Saia nel giorno della liberazione del 25 aprile, scusami. Signor... Soltanto nella tua mente malata si potrebbe fare una cosa così. Ma io lo chiamerei subito, giusto per farti un torto, solo per farti un torto. Antonio... Ma che me ne frega, è un povero mentecato. Antonio da Roma, dai. Sì, buonasera a tutti, caro Giuseppe e caro Parenzo. Allora, niente, io volevo intervenire su una cosetta sul Papa, no? Papa che chiama Pannella, ma vi rendete conto a che livello siamo arrivati? Cioè il Vaticano, ma è una cosa pazzesca, dai, il Vaticano che chiama Pannella, l'anticlericalismo, cioè dovrebbe leggere le cose che scrivono gli anticlericali radicali, chiama Pannella, su emergenza Giuseppe. Carceri l'aiuterò, dai, su ragazzi, Giuseppe. Di che stiamo parlando, dai. No, allora voglio dire una cosa, innanzitutto Parenzo non ha ricordato in apertura della trasmissione che il 25 aprile di qualche annetto fa eravamo andati a fare la marcia per l'amnistia, innanzitutto. Vabbè. Comunque, detto ciò, volevo fare un intervento. Tu puoi fare Papa. Tutte le marce che vuoi, io sono contro l'amnistia a spada tratta. Cioè... Ma Parenzo è morto, dove sta? Parenzo sta male oggi, qui. Sta lì, no, morto no, ancora no. Però. Ah, no, mi raccomando, non ci fare scherzi, caro Davide. Io volevo dire questo, tu quando, caro Giuseppe, dici il Vaticano ha chiamato Pannella, no Francesco, un uomo semplice ha chiamato Pannella, sì, un uomo noi ci dobbiamo mettere, lei ancora crede a questa storia, un uomo semplice, tutte queste cose che vengono però dette. Noi ci dovremmo un attimo svestire da questi preconcetti che ci siamo messi addosso in secoli e secoli di Vaticano, no? Il buon Francesco chiama perché è un prete. Noi siamo stati purtroppo abituati a una marea di scandali, froci, mignotte, eccetera eccetera riguardo il Vaticano, ma lui si sente un uomo semplice che vuole fare gesti semplici verso un altro, verso... Senta, ormai secondo me le telefonate del Vaticano sono inflazionate. Beh. Inflazionate, dunque ormai hanno un'importanza così, cioè un'importanza relativa. Un attimo solo. Papa che fa solo le encicliche. Fermo, fermo lì, basta con le encicliche, quello che tossisce, fermi tutti. Avete rotto il cazzo, parlate sempre di froci, di razzi. Io voglio che parlate di cose interessanti, vi voglio sentire un'altra volta i bevitori di piscio. Mi piace un mondo così, a me fa cagare un mondo così, un mondo che ci fa cagare. Pronto? Sì. E il conduttore? Sono il conduttore fino a prova contraria. Cioè uno chiama, no? Io ogni tanto me lo sogno anche la notte questo qua. Uno chiama. Pronto? Pronto? Sì. E il conduttore? Ma sì, se uno chiama la radio e un altro risponde. Ma chi? Ma è il modo come dice il conduttore che è inarrivabile. E il conduttore? Ma sì, ma chi doveva essere se non il conduttore? Vabbè, ma fate. Beviti uno sciroppo, però, tu. Beviti uno sciroppo. Come? Beviti uno sciroppo, amico mio. Ma adesso da quando è che fai anche il medico? Ma ho capito, chiamate qualcuno, dai, chiamatemi un medico per Parenzo. Adesso chiamo Zangrillo. Cioè. Sì. Alberto. Roberto, se sei in ascolto, mi dici per favore cosa deve fare Parenzo per questa... No, ma deve sapere come mi sono ammalato, però. Cos'hai? Adesso ti facciamo fare una diagnosi in diretta da Zangrillo. Adesso io lo dico. Per questo grazie. No, no, diagnosi in diretta da Zangrillo. Può essere che abbia le placche in gola, però, Marescotti, Ivano Marescotti. Ah, strepitoso ieri è stato. Ivano Marescotti, attore, candidato per la sinistra. Attore, quella... non so ancora, attore non so per quanto ancora, dopo quello che ha detto ieri, però insomma. Comunque sta girando una fiction per la Rai, non so per quanto. Appunto. Perché forse gliela taglieranno dopo quello. Vabbè, questo qua è malato. Alberto, mi ascolti? Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi? Qui c'è bisogno di un intervento su Parenzo. Se c'è qualcuno, lo chiami, lo avverta, deve chiamare per fare una diagnosi in diretta su come sta questo cialtrone. Marescotti, gli hanno tagliato una fiction alla Rai, è incazzato come un bufalo e mette in mezzo Berlusconi, dice: io tagliato alla Rai, lui da pregiudicato pontifica da Vespa. Ma sarebbe in galera, non solo in un altro paese, ma anche lei, se fa quel che ha fatto lui, sarebbe in galera, io pure. Come mai? Adesso è lì, adesso da Vespa, a pontificare, a dire che il patto con Renzi, che è il presidente del Consiglio, cioè già fare un patto con un delinquente, ma com'è possibile? Il presidente della Repubblica che riceve in pompa magna un delinquente, e a me mi tagliano per lo fisico che ho fatto 2 anni fa, ma la roba da mano. Dicendoci col tuo sangue da bere. Ti facciamo bestemmiare. Lui è un delinquente comune, è condannato anche a 7 anni perché è andato con le puttane minorenni. Cioè, voglio dire, ma com'è possibile che questo qui sta pontificando sulle destini di mia figlia che ha 10 anni e che adesso con i patti degli europei deve pagare 50 miliardi all'anno per verificare i bilanci? Io sono indignato, lo dica pure, no, lo dico, mica deve dirlo, lo dico io. PD, scusami, un partito che governa da 3 anni con la destra più becera dal dopoguerra, secondo lei si può definire di sinistra? Uno che fa un contratto con il più grande delinquente dal dopoguerra in poi, dopo Mussolini, si può definire di sinistra? Vuoi portarci in tribunale? Nuove zone da... Dovrebbe stare in carcere, non da Vespa. Io invece vengo tagliato dalla Rai. Facciamo quel che ci pare. Oh, c'è una signora, non pronuncio nemmeno il nome perché non vale la pena, che con un tweet su Twitter dice: mettiamo che Giuseppe Cruciani incontri uno che gliele suona e gli spezza le gambe. Proprio così, gli spezza le gambe. Beh, certo, direi se l'andava cercando. Le Mario da Genova, buonasera. Buonasera, senti Cruciani, io volevo dirti 2 cose. Uno, che sei un po' vigliacco a dire certe cose, sì. in particolare sul Papa, eccetera, perché il Papa fa un po' quello che vuole, come tu dici sempre. Ma l'altro, certo che fa come vuole, chi ha messo in discussione il fatto che possa fare quello che voglia? Ma esatto, posso dare un giudizio sul fatto che telefona a pannello, oppure bisogna stare lì ad omaggiare, a mettersi supini e dire: oddio, che bello, che cosa meravigliosa, il Papa chiama pannella. No, io giudico quello che vedo, e posso giudicare anche il Papa finché lo posso fare. Quando non lo potrò più fare, giudicherò in una stanza da solo parlando col muro. Bravissimo, bravissimo. Seconda cosa, sei un po' ignorantino. Quello può darsi. Sicuramente meno di lei, guardi, su quello non c'è dubbio. No, sei più ignorante di me. Carissimo, la resistenza sì. A Genova, qui siamo a Genova, ci siamo sì. Liberati da soli. Io non c'ero, ma senta, io parlavo in generale, senza gli americani. Americani non si andava da nessuna parte. Poi se lei vuole pensarla diversamente, a Genova, la liberazione da soli, fai come te pare. Informati, a Genova ci siamo liberati. Sto dicendo in generale, senza gli americani, quegli altri non venivano sconfitti, i nazisti, i fascisti, capito? E la maggior parte di quelli, come scrive Panza, ma devi studiare tu, la maggior parte di quelli che facevano la resistenza volevano un'altra dittatura, chiaro? Ma non è vero. Come no? Ma è arrivato lui, è arrivato Massimo da Belluno, dai. Ma non è vero assolutamente. No, non è vero, sì, sì. Perché la resistenza non era in gran parte comunista, no? Non era in Guarda gran parte comunista. I combattenti per Ma io non sto dicendo niente, volevano un'altra dittatura, sì o no all'epoca? Assolutamente no. Non volevano no. l'Unione Sovietica. Ecco, è arrivato lui che sa tutto. Massimo da Belluno. Assolutamente Ma smetti, no. Pronto, buonasera. Massimo da Belluno, dai. Non c'era alcuna doppia fedeltà. Pronto? No, no. Massimo da Belluno, dai. Tant'è che una persona Pronto? Che ha firmato la sì. Costituzione si chiama, sai chi è che l'ha firmata? La sì, vabbè. Italiana. Senti, fammi sentire Massimo da Belluno. Ma che sicuramente. Ma cosa italiana? C'entra adesso questo? Cosa chi c'entra? Non c'entra italiana? Nulla. Asino, che senti, non allora Panza scrive firmata? Tutte cazzate. Panza scrive tutte cazzate. Ma no, sono, vedi che perché ti piace confondere perché è così la questione che Ma tu cosa? Io sto dicendo una cosa, la maggior parte allora, di quelli che hanno combattuto stupidaggine. Vabbè, stupidaggine. Gli episodi no. raccontati da Panza sì. appartengono a episodi di violenza sì. avvenuti all'interno della resistenza sì. ad opera di alcuni comunisti. Sì. Primo. No, io sto dicendo, ma lo dice anche lui, la maggior parte di quelli che hanno combattuto nella resistenza volevano un'altra dittatura, ma all'epoca era così, volevano l'Unione Sovietica, volevano la rivoluzione. Tant'è. Volevano il progresso, il sole della me è normale, non sto dicendo che è una follia. Non è così. Ah, non è così. Volevano la democrazia invece, vabbè, hai ragione tu. Massimo da Belluno. La Costituzione italiana è comunista. Pronto. Vabbè, che devo fare, compare Enzo? Nega ormai una che quello che è una verità storica accertata. Massimo da Belluno, dai. Ce la facciamo? Sì. Pronto, buonasera. Vai. Niente, io sto tornando dalla festa del 25 aprile, molto contento. Sì. Piazza San Marco, 2-3 mila persone, indipendentisti, sì. forse è bene che chiamate me invece che Zaia, perché almeno ho le idee chiare e non confondo indipendentismo con autonomismo, e poi inevitabile Cosa? Il paragone fra noi indipendentisti sì. e i partigiani del 25 aprile, va benissimo questo. Ma io non ho capito, scusa, però non ho capito bene, adesso lei ci sta raccontando che è stato in piazza per il 25 aprile e che c'erano gli indipendentisti, chi c'era? Perché è anche San Marco, beh allora dunque? In piazza San Marco. Dunque? A festeggiare per la nostra nazione, vabbè, la nazione veneta. Vabbè, d'accordo, poi? Poi va bene, siamo i partigiani. Io non ho capito una cosa, lei mi chiama, perde tempo per cercare il numero, cercare la linea, eccetera, eccetera. Mi devi dire, io oggi sono stato a Venezia a festeggiare il 25 aprile, San Marco, punto. Sì, San Marco. Punto, cioè per lei che cos'è oggi, San Marco più che la resistenza, che cos'è oggi? Oggi è San Marco, dunque lei, per lei non è la resistenza oggi, è San Marco? È la nostra resistenza. È la nostra resistenza. Vabbè, insomma. Sì. Non mi sembra un'analogia da poco. Oh, Rino da Foggia. Capirai. Finalmente, Giuseppe. Dimmi, Rino, dai, veloce. Veloce, senti, niente, io volevo solo dirti che condivido in pieno quello che tu dici. Su che cosa? Volevo solo segnalarti, se riesci a intervenire sui Dove? Piani alti del Movimento 5 Stelle. No, non a riesco. A Foggia. Che è successo a Foggia? Una cosa veramente singolare. Che è successo? Un dirigente, l'ex dirigente del PD, sì. fino a 2 mesi fa, sì. si è infiltrato in una lista, in una certificazione di lista, che è stata certificata. Sì, però Rino, scusa, abbi pazienza, adesso non ho tempo per raccontare i movimenti del Movimento 5 Stelle, cioè quello che succede a Foggia. Abbi pazienza, adesso... salvami, ti prego, risparmiami queste cose qua. Ho capito. Capito? No, oh, ho capito. Ti abbraccio. Sì. Ciao, ti abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao. Come è rimasto male, dici? Ho detto anche non ha apposto alcuna resistenza. Ho detto ok, va bene, si è ritirato in buon ordine, poverino. Richiamalo, dai. No. È umiliato, dai. Stefania Nobile e Vanna Marchi, fossi un uomo picchierei i lavavetri. Ti devo fare incazzare su questa cosa oggi, non ci arrivi ancora a incazzarti, E tossisce. Alberto, chiamami per favore. Ma sti lavavetri sono una roba che guarda, sono una roba. Io fossi un uomo, giuro, ne picchierei 10 al giorno. 10, non uno. Anche perché poi sono lo fanno di prepotenza. Veramente. Ti spaccano i tergicristalli. Tutto. Sono micidiali. Tanto viviamo gli spettri di chi ci vive. Io una volta ho visto uno che faceva la pipì dentro la bottiglia e poi lavava i vetri. Sì, sì, vicino a... Visto io, eh? No, no, è quindi, cioè, voglio dire, lo dico. Vabbè, perché l'ho visto io. Basta chiedersi, quindi, dove pigliano l'acqua, c'è, cioè, un giorno intero. Veramente. Dove la prendono l'acqua? D'accordo! Ma oggi non sei in forma, perché sennò ti scateneresti. Però lunedì, però, sai quelle conversazioni tra intellettuali di quei salotti all'inizio del Novecento, dove c'erano quelle grandame elegantissime, due signore elegantissime, sì, che dissertano dei grandi temi del mondo, le due grandame, due signore eleganti, per bene, belle, poi, no? Belle, per nulla volgari proprio. Allora, in esclusiva assoluta qui alla Zanzara, e per intercessione, devo dire, del senatore Antonio Razzi, caro Parenzo, indovina chi c'è. Beh, con grande piacere, io l'ho visto una volta quando è venuto Antonio a trovarci alla radio a Roma. All'inizio non l'ho nemmeno riconosciuta, perché è sempre in disparte, non vuole mai, no? Non vuole mai parlare, non vuole mai stare come il marito. La moglie di Antonio Razzi, Maria Jesus Fernandez, buonasera. Buonasera Luciani, buonasera Parenzo. Come stai? Innanzitutto? Bene. Buone feste, buon tutto, eh? Grazie. Senta, ma dove si trova? In Svizzera? Sì, sto in Svizzera e sta diluviando. Diluviando. Ma sì. Suo marito la... Non mi prendere in giro come mio marito, perché, sai, parliamo l'italiano uno peggio dell'altro, eh? No, lei, io ma devo dire la verità, secondo me lei parla l'italiano meglio di suo marito, o no? Grazie. O no? Molto gentile. È vero o no? Molto gentile. L'ho imparato, diciamo, con lui. Beh, con non lui. È che sono andata a scuola d'italiano, perciò... Ma come l'ha imparato con lui? Se l'ha imparato da lui è un disastro. Con lui e con gli altri amici italiani, così, no? Ho detto, non sono andata a scuola d'italiano, perciò mi arrangio così. Però, mi dica la verità, lo parla meglio lei l'italiano di suo marito? Insomma, mi arrangio. No, ma meglio lei, sicuro. Diciamo, mi faccio capire e capisco un po'. Senta una cosa, ma abbiamo visto questa l'ha raggiunta intanto suo marito in Svizzera, perché ieri era qui a Milano. Sì, è arrivato questa sera, sì. Ah, meno male, che doveva fare tutto sto tempo. Allora, abbiamo visto questa foto incredibile. Lei è sorpresa che questa foto sia diventata una delle foto più cliccate in Italia sul web? La foto del vostro matrimonio, presa dal coso, dal comodino, dov'era? No, è un quadro che ho io nella mia camera da letto, perché è un ricordo. Io almeno quelle della mia età e della Spagna, sì, teniamo sempre a avere le foto del matrimonio in casa, non è che le abbiamo nascoste, capito? E allora l'avranno preso di quella che stava lì. Ma l'hanno preso senza il suo consenso, no? Lo sa che mio marito fa tutte le cose senza il mio consenso, tanto non domanda niente, lui fa e basta. Cioè, ecco, gli ha dato la foto senza manco chiedere il permesso, è una cosa pazzesca. No, lui ormai si è lanciato in questa marea di cose e lui non ascolta nessuno. Io quando lo vedo, lei pochissimo, disperata, quando esce fuori di casa, le dico, per favore, in bocca chiusa non entrano le mosche. Ma lui, niente, le entrano pure i mosconi, non lo so. Lei è disperata. Sì. È un po' disperata da questo punto di vista. Ormai, guarda, mi sono messo il cuore in pace, perché prima ho sofferto tantissimo, stavo malissimo. Sì. Adesso ho detto, va bene, lui è contento così, le piace. Ognuno fa la sua vita, basta che non fa niente di male. No, beh, certo. Ho detto, allora che male fa? Non fa male a nessuno, ridono di lui un po', lui ride pure di loro, e che vuoi che faccia? Senta, ma tutta questa popolarità recente, perché suo marito è passato da essere additato come il prototipo del parlamentare, no? Il simbolo traditore. Del parlamentare traditore, e adesso invece è diventato uno dei parlamentari più popolari, cioè siete passati dall'insulto, se vogliamo, al fatto che suo marito lo riconoscono per strada. Quando ieri è venuto a raggiungerci qui a Milano, le persone l'hanno fermato sotto qui al Sole 24 Ore, gli impiegati. Guarda, io le devo dire una cosa, a mio marito l'hanno chiamato traditore, noi abbiamo sofferto molto questo cambio che ha fatto, perché non è che lui è stato traditore, lui se ne è dovuto andare perché era disperato, al punto che io le dicevo, lascia tutto, torniamo in Svizzera e che te ne freghi, lascia tutto, non mi interessa, torna a lavorare in fabbrica come stavi prima, torniamo felice. Lui non se n'è andato per una poltrona, o per questo o per l'altro. Lui se n'è andato per disperazione. Ma mi dica, signor Cruziani, sì, tutti questi che sono che hanno cambiato 5, 6, 7, 8 volte partito, sì, di qua, di là, quelli non sono traditori, solo mio marito in tutta l'Italia. E come mai? E come è mai? L'unico traditore. E come mai? Come mai, secondo perché? Me? Ecco, quello me lo domando sempre io, come mai è l'unico traditore, mio marito? Dunque lei non lo considera tale, cioè lui ha cambiato e no, ha fatto bene a cambiare? Assolutamente no, perché io ho sofferto molto. La gente non lo sa, perciò quando uno non conosce le persone. Ma perché lei ha sofferto? Perché lei ha perché lei ha sofferto? Per colpa di Di Pietro? Insomma, per tutto quello che le hanno fatto a lui e perché io mi trovavo in una situazione, perché per noi era un cambiamento di 360 gradi, venire da operaio di una fabbrica, sì, a entrare in Parlamento, una vita completamente diversa. Anche lui si sentiva così. E poi, mentre sei una, come le voglio dire, sì, mentre puoi esprimere il limone che viene il succo fuori, lo spremi. Quando dopo quel limone non c'ha più succo, lo vuoi buttare, no? Però la situazione nostra era molto tragica. In che senso? Tragica in che senso, signora? Era molto tragica nel senso che a lui l'hanno preso in giro perché diceva: ah, la pensione, io devo... Normale, tutti quanti vogliono arrivare alla pensione. A lui, sì, le mancavano 4 anni. Dove andava? Dunque senza pensione non andava da nessuna parte, dice lei. No, e rimanevamo tutte e due senza lavoro, perché io avevo perso il lavoro in Svizzera, lui aveva perso pure, e non avevamo all'età sua di 62 anni dove trovava dopo un lavoro? In Svizzera, in Italia, dove lo trovava un lavoro? Certo, no, ma non va bene, dubbio. Parliamo di un'altra cosa. Cosa mi voleva dire? No, volevo chiedere una cosa, ma è vero che lei si era ammalata per colpa di Di Pietro? Cioè per colpa no, di per questa... per l'amor di Dio, non mi sono ammalata per colpa di Di Pietro, mica io posso fare la colpa di Pietro. No, per quello che è successo. Cioè. Per quello che arriva, io ho sofferto moltissimo, e lei lo sa, quando sì, uno soffre, non è che ti deve venire quella malattia, perché la parte debole sì, in quel momento si vede del mio corpo e mi ha attaccato lì, no? Ma io ho sofferto moltissimo, Ma ha sofferto perché davano del traditore a suo marito, per questo ha sofferto? No, quello è stato prima, quello è stato nel 2008 quando sì, gli facevano i dispetti e queste cose. No, nel 2008. Cioè, nel 2008. Quando suo marito, quando litigava col partito, quando litigava col capo del suo... No, mio marito non litigava con nessuno, perché mio marito è una persona tranquillissima, rispettosa di tutti. E allora cosa era successo? Cioè... buona, è perché lui vedeva che nel partito l'umiliavano, lo insomma. Sì, ho capito. Lui si sentiva umiliato, sentiva che lo volevano far fuori. Dice: come, io ho fatto tanto e adesso questi, capito? Sì, dunque... ma io non voglio accusare uno. No. Però ha fatto benissimo, secondo lei, ad andare con Berlusconi? Guarda, io se le dico la verità, sì, l'ho saputo dalla televisione. Non mi crede? No, come no? Le credo, guardi. Non le crede? Le credo assolutamente. Io l'ho saputo dalla televisione, perché lui mi aveva detto che se ne andava con un partito che si chiamava... Che ne so? Noi Sud, o non so che cosa. Ah, Noi Sud, sì, Noi Sud. Ecco. Per carità. Io nella sua vita non è rimasto così. Dopo io stavo vedendo la televisione quel sì, giorno, quando la fiducia, sì, e quando vedo che mio marito passa e tutti lo facevano, guarda che non è stato solo mio marito, c'è stato la Filippotti, sì, e in quel momento lì ha cambiato pure la Polidori. Sì, come no? Come anche no? A lei l'hanno insultato. E allora gli ho detto: perché mio marito... Allora le ho telefonato, ho detto: scusa, dico, ma... Antonio, che hai fatto? Dico, ma che cosa, che hai fatto? Sì. Allora a me la unica cosa che mi è venuto... Oddio, non posso parlare perché magari mi querela, No, che te querela? Perché chi? Ci stanno quelle che querelano e... No, che l'unica cosa che dicevi? No, ho detto, ma quello che cosa è? Ma hai cambiato? Ma io credevo che tu stavi... Sì, sì, ma quello apparteneva anche a questo, capito? Sì, Noi Sud, ecco, che era insieme a Berlusconi, sì, è vero. Ecco, io l'ho saputo, anche l'ho sentito. Dalla televisione, ma ha fatto bene, cioè anche tu consideri Berlusconi un grande. Adesso, no, io adesso sono contenta perché lui è felice, lui si è rilassato, sì, fa tutto con voglia, e sono contenta per lui. Certo, ma perché anche... si stava anche... ammalando pure lui. Ecco, ma pure lui si stava ammalando. Sì, perché anche lui soffriva, no? Sì, certo. Ma io non ho capito, anche tu consideri Berlusconi come lo considera tuo marito? Cioè uno... Allora, guarda, io Berlusconi mi sembra una persona, sì, mi piace moltissimo, sì, e l'ho conosciuto. Sì. Allora, io dico la stessa cosa, sì, di mio marito. Cioè? Allora, Berlusconi io l'ho conosciuto e mi è sembrato una persona di una gentilezza, sì, cordialità, una, sì, persona squisita. Allora, a mio marito lo criticano pure, ma non lo conoscono, perché chi lo conosce, sì, a mio marito, sa che non è quello che dicono, perché anche lui è una persona di molto cuore, molto rispettosa. Ecco, ma voglio dire la verità, tra Berlusconi e Di Pietro c'è un abisso. Sì, sì, io preferisco sempre il secondo. Un attimo solo, che abbiamo la pubblicità. No. Torno subito, due minuti soli, torno subito. La zanzara. Non mi mordere il dito. Ma sicuramente se verrebbe in Abruzzo è un onore per l'Abruzzo avere Berlusconi lì tra gli abruzzesi. Italiano uno peggio dell'altro, eh? Ma figuriamoci se vogliamo prendere in giro la signora Maria Jesus Fernandez, che è la moglie del senatore Razzi, che è nostra ospite dalla Svizzera. Caro Parenzo, di qualcosa anche tu, perché sennò no, adesso infatti, poi deve andare via, tra l'altro, ma possiamo trattenere. Oltre a volerla salutare, perché le voglio, sono a mio modo affezionato anch'io, perché l'ho vista in diverse occasioni, anche quando soffriva l'ho vista io, poverina. Ma le voglio chiedere questo, poverina, che cos'è che le ha fatto scattare la scintilla d'amore in Antonio? Cioè quella cosa che proprio l'ha travolta, sa quando ti batte proprio il cuore? Cioè la cosa che è piaciuta di più di suoi. Non puoi sapere, non sei mai stato innamorato. Sì, non è vero, sono stato innamorato anch'io, dai su, non smettila con questa storia. Solo di te stesso. E cos'è che le scatta quel cuore, quelle farfalle nello stomaco quando vede Razzi, quelle farfalle nello stomaco? Cos'è che l'ha fatta innamorare, signora Maria? Cosa mi ha fatto innamorare? Guarda che ho le amiche che mi stanno aspettando, mi stanno dicendo di finire. Sì, sì, sì, un minuto. Due cose. Mi sono innamorata come tutti quelli che si innamorano di una persona. Ma di che cosa? C'è una cosa che le è piaciuta di più, una. Sicuramente non la sua capigliatura. Ah, sicuramente quello non i capelli. No. Quella... Anche se in quei tempi là la portavano tutti, perché era moderna. Però era non le piaceva, però non le piacevano. No, mi è piaciuto perché era una persona molto seria, molto insomma. Però a noi ha raccontato che prima di conoscere lei è stato con tantissime donne, teneva addirittura quel taccuino, è vero o no? Quello no, quello a me, quello che sì, quello così dice lui, no? Ma sa come cane che abbaia non morsica, no? Cioè che vuol dire? Lui anche a me me lo ha detto, che ha avuto tante, ci aveva la fama, no? Però ma è vero che lei ha buttato quel taccuino dove lui segnava tutte le donne? Beh sì, anche le fotografie che aveva, che ci fa? Se adesso sono io, mica ci possono stare. Vabbè, ma la buttate addirittura. No, le ho strappate, sì, le ho rotte e basta. Questo ormai non fa più parte della tua vita, no? Adesso ci sto io e faccio io parte della tua vita. E si vede che è andato bene, perché grazie a Dio, ringraziando il Signore, sono 40 anni che adesso facciamo. Ma lei è ancora innamorata? Diciamo che è passato il tempo delle mele, no? Sono sempre innamorata, ma non è quell'amore. Adesso è un amore diverso, un no? Affetto, penso un affetto. Come tutti i matrimoni, quando arrivano a una certa 40 età, anni, 40 anni. C'è più affetto che altro, più affetto che altro. Sì, rispetto mutuo uno per l'altro. Senta, un'ultima cosa, signora, poi la lascio. Sì, sì, poi la lascio. Crozza. Ma lei lo vorrebbe incontrare, Crozza? Cioè, che pensa di Crozza? Che è un grande, che vi ha reso famosi, che pensa? Ma io penso che Crozza è una persona che fa il suo lavoro. Sì. Se non ci starebbe, per esempio, Razzi, Berlusconi, Renzi e tutti questi, dovrebbe cercare altri per continuare a lavorare, no? Allora, bene, no? Il cioè dovrebbe cercare dovrebbe cambiare lavoro, dice. Lui fa il suo mestiere, basta che non offende e che non... Ma lei si è sentita offesa qualche volta? Si è sentita offesa da Crozza qualche volta? Di me non ha detto mai niente. Ultimamente ha detto qualche cosina, ma no... No, per quello che ha detto di suo marito, si è sentita offesa lei qualche volta da Crozza? Quello che dice mio, guardi, io l'ho visto quando l'ho visto la prima volta e ha fatto quello. A me mio marito ride, guarda, se a lei non piace, a lei non piace. No, io diciamo sorrido. Ah, sorride, vabbè. Sorrido. Però per esempio com'è l'espressione te lo dico da amico, quella le fa piacere o no, perché era legata alla storia del mutuo, eccetera. Com'è quella cosa lì, non è che lui magari dice quella parola, fatti i cazzi tuoi, sì. No, No, quella io penso che va rivolta a quelle persone che lo insultavano, che dicevano tante brutte cose, no? Allora io dico, quelle persone sono quelle che devono fate. Dovrebbero farsi i cazzi loro. Vivere la vita tua e lascia vivere le altri. Com'è che fa l'espressione te lo dico da amica? Come fa, Jesus? No, io guarda, io quella parola non la dico, però in Italia le devo dire la verità, quella parola la sento in bocca di tutte le giovani donne. Anche in bocca nostra, devo dire la verità, se lei ci segue. No, anche in bocca degli uomini, ma è una parola che la sento nel bus, le giovani, le ragazzine, tutti hanno questa parola in bocca, perciò non è che sia una parola tanto scandalosa. Com'è che si dice in spagnolo quell'espressione là, te lo dico da amico, fatti i cazzi tua? Se uno lo dovesse dire in spagnolo, come lo direbbe? Boh, in questo momento non mi viene da dirlo, non è che magari una parola, non mi ricordo più. Te lo dico da amica, te lo dico da amica, vabbè. Grazie, buona vacanza, buona vacanza, ciao, vale, ciao, ciao. Grazie a vosotros, ciao, adios, adios, adios. La zanzara. Pasquale da Imbassago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro? Mi rende isterico. Ho capito. Sì, ciao. Una piccola zanzara. Ora mi hanno aggiornato da poco sul numero di persone sempre di più che stanno aderendo su Facebook a un club che prende il nome da Riccardo l'ascoltatore della zanzara, Parenzo, mi dispiace per te ma è così. No, ma figurati. Riccardo da Roma, capito? Sì. Riccardo da Roma. Sì. Ma chi è al telefono? È quello che hai umiliato prima. Riccardo da Roma Fans Club, il primo gruppo su Facebook dedicato a Riccardo da Roma. Siamo arrivati praticamente ad oltre 300-350 persone, ma insomma siamo appena agli inizi, basta che lo dico. Aderite al Fans Club Riccardo da Roma. Mi rende isterico. Tu sei come una piccola zanzara. Gennaro, Milano, Gennaro. Buonasera. Vai. Ma senti Lucia, volevo dirti, parlare sempre di questo signor Berlusconi tutte le sere. Sì, ma Berlusconi è uno dei personaggi politici che a lei non piace, non è importante. No, ma non è per quello. Resta uno dei personaggi più importanti della politica italiana. Ma è chiaro o non è chiara questa cosa? Lo so che è chiaro. E allora basta, perché ne parliamo secondo lei? Su, abbia pazienza. Ma un signore che ha rovinato l'Italia. Vabbè, ma ha rovinato l'Italia secondo lei? È delinquente al 100%, ma cosa dobbiamo fare per togliercelo di me? E gli spari? Vuole andare a sparare a Berlusconi? No, questo mai. Però che un po', cioè, se questo stava in un paese normale, sarebbe in galera da 30 anni. Quello è un altro discorso, può darsi. In altri paesi comunque non c'è la giustizia che c'è in Italia, non c'è la giustizia che c'è in Italia. Questo signore che ha creato tutto questo massacro in Italia, che ci ha fatto diventare lo gemelli di tutto il mondo. Io non lo so perché, sono solidale con Scotti. Con chi? Con chi è solidale? Una pronta guarigione. Con chi è solidale? Non ho capito. Con Scotti. E chi è Scotti? Quello che hai chiamato te prima, che ha detto che l'hanno tagliato la fission. Mare Scotti, no Scotti. Che diavolo. Comunque speriamo che qualche volta ci dimentichiamo di questo signore che ha rovinato l'Italia. Questo il suo posto sarebbe insieme a Rina, secondo me. Insieme a Rina, dove in galera, dice, al 41 bis. Sì, al 41 bis, come sta Rina? Berlusconi al 41 bis, bene. Ciao. Ilaria, Firenze, Ilaria. Sì, buonasera, ciao. Vai. Volevo dire una cosa a Parenzo, no? Cioè, sì. Lui difende sempre la Vavetri, però io voglio dire, oggi ero in macchina. Cioè, mi trovo e lo lì che mi picchietta in vetro, sono sempre da sola, un po', insomma, mi scoccia, cioè, vorrei dire, no, perché dipende sempre. Stai calmo, fai parlare prima, no? Allora, No, io come mai, cioè, tendo a difendere sempre queste persone qui, poi quando c'è tanta gente e facendo magari lo stesso lavoro all'interno delle aziende, e invece, cioè, vorrei dire, bricio di spiegazione, come mai lui deve difendere. No, ma io non ho capito, Ilaria, stia calma, allora, che succede con i lavavetri, perché le danno fastidio? No, mi danno fastidio, perché ha visto, cioè, sono lì in macchina, fammi i fatti miei, sto guidando, mi tocca chiudere lo sportello, il finestrino mentre sto fumando, insomma, un pochino. Cioè, vabbè, adesso non è questo, se uno chiude, chiude il finestrino mentre sta fumando, non è una cosa gravissima. Vorrei sentire un attimo, Parenzo, cioè, non è lui, insomma, non si sta arrabbiando. Parenzo? No, io non è che, difendo, guarda come sta ridotto sto poveraccio. Io non è che difendo i lavavetri, io dico semplicemente che tra i lavavetri, che poverini sono lì, rompono un po' le scatole quando vengono, ti chiedono. No, anche i coglioni, direi, non le scatole. Sì, ti rompono un po' le scatole quando sei lì al semaforo e ti insistono. E d'accordo, vabbè, però è gente che almeno si dà da fare, no? E non è gente che ruba, è gente che si propone. Beh, oddio, gente che ruba, gente che non ruba bisogna vedere, naturalmente. Ma no, se quelli lì, guarda, quelli stanno al semaforo, non stanno a casa tua a sbalizzarti la casa. Bisogna vedere, può darsi pure che la notte vadano a sbarigiare, non è Fate escluso. Ma a casa tua non c'è niente, siccome zio Paperone che tiene tutto nel forziere e a casa non c'è niente. Ma tu stai insistendo da un paio di giorni su questa cosa, ma va benissimo, perché io accetto la polemica tranquillamente. Però mi sto preparando. No, mi sto preparando non solo delle rispostine, ma anche delle altre cose su di te. Perché se vuol dire. No, è fondamentale. No. Scusate. Dimmi. Scusa. No, volevo dire una cosa, che insomma via, ci sono riuscita a far parlare a Parenzo oggi, via, perché era un po' riuscita? Morto. È moscio, era un po' morto, a me non me ne frega niente della lavavetri, cioè se non gli voglio, non gli voglio, volevo solo sentire un pochino più vivo Parenzo. Brava, brava, brava. Era lì che era un po' morto, ho detto via, animiamo un po' la situazione, è lì, poverino. E soprattutto quando quando tu rispondi è carina e simpatica la signora, sicuramente Ilaria impazzisce per questa cosa. Non hai capito ancora che Ilaria vuole sentire. Io mi sto prendendo per il culo. Sì, va bene, Ilaria, abbiamo capito, non c'è bisogno, non è una grande presa per il culo, cioè non è una cosa geniale quella che hai fatto, cioè, No, però era per divertirsi un pochino, era lì in mezzo morto, poverino, non parlava, ho detto via, facciamolo un po' Ma po' certo, Parenzo, il problema è che non è che si aspetta Ilaria che tu gli dica grazie, hai fatto bene. Benissimo, ma devi combattere, grazie. Luca da Brescia, combattere. Grazie. Se ne fotte che gli dici grazie, devi combattere, sangue e merda. Vai, Luca da Brescia, dai. O tiri fuori i coglioni o vai da Barisoni. Ecco, appunto, Luca da Brescia. Allora io vai a fare lo zerbino da Barisoni, dai. Appunto. Vai a fare lo zerbino, il cameriere di Barisoni. Luca da Brescia. Sono il generale dell'esercito di Parenzo. Ancora, questi generali. Sì. Quanti siete sti generali? Oh. No, sono io, sono sempre io. Che... Sì, ma con quanti telefoni chiami? No, era da 2 mesi che non telefonavo. Allora? Allora, io volevo telefonare in difesa di Parenzo, perché sono un medico, visto che Zangrillo Che sei come medico? Che fai? Che specialità hai? In realtà sono un medico legale, quindi faccio solo le autopsie. Medico legale, quindi, fai le autopsie. Non avendo bisogno, diciamo. Vabbè, allora? Quindi spero di non dover... Aspetta, allora facciamoci fare la diagnosi dal generale. Parenzo, che cos'hai? Che è successo? Guardi, generale, ieri a Catania c'erano 26 gradi. Io sono andato con la camicia e poi c'era del vento di libeccio fortissimo, non ho messo il maglioncino, mi sentivo che mi si gelava il sudore e ieri notte, già ieri sera pomeriggio stavo già male. E mi sento tutto costipato, un po' di febbre. Infatti l'ho seguita anche sull'aereo, ero di turno io questa mattina, l'ho seguita sull'aereo da Catania a Roma, visto che... Probabilmente avete pubblicato le rotte come Ustica, bravissimi. Esatto, bravissimi. Non ho capito che cosa hanno fatto, che cosa hanno pubblicato. Hanno fatto un lavoro straordinario questi ragazzi, che io già seguo poco perché mi dissocio da quelle attività che tanto fanno. Però questa volta hanno fatto un lavoro eccellente, cioè loro hanno mappato l'itinerario del mio volo alle 6 del mattino Ryanair da Catania a Roma, cioè hanno messo la mappa del volo. Bellissimo. Ma guarda che secondo me tu, questa è la giusta punizione per tutte le cazzate che fai, questo è il punto fondamentale. Vabbè, allora chi c'era? No, non ho capito chi c'era. Lavoro fatto bene. Chi c'era? Luca? Chi era Luca? Parenzo, dovresti dopo, quando è finita la trasmissione, però, perché altrimenti rischieresti di rovinare un po' così, diciamo, il clima. Sì. Dovresti chinarti diciamo a 90 gradi. Beh, prendere una peretta. Sì. Beh, io ho mal di gola, però. Sì, ma non importa, tutto viene dallo stesso. Cioè, dovrebbe farsi una peretta. Ma è medico il generale dell'esercito. I malanni partono sempre da lì, e quindi il culo, la bocca, se vogliamo dire. Cioè, ti devi fare una peretta per guarire, capito? Una peretta. Esatto. Esatto, una peretta, chiaramente fuori onda, perché le conseguenze... No, ma facciamola essere... anche in onda, è eccezionale, una peretta Parenzo in onda in diretta, beh, strepitoso. Se potrei ci fosse un medico glielo manderei subito a Roma, a fare la peretta. Dentro questa peretta che cosa va messo, signor Luca, generale? Dentro dovremmo mettere un'emulsione di acqua, sì? E delle gocce di mentolo, così sì? Funziona anche un po' da profumo d'ambiente, se vogliamo, se l'ambiente non è... eccessivamente grande, è un metodo biologico. No, ma in Germania lo fanno. Guarda, che il generale dell'esercito di Parenzo, Luca da Brescia, essendo medico, però insomma, medico legale, quello che si occupa soprattutto. I miei pazienti non si lamentano mai, Crociani, quindi. Quello non c'è dubbio perché sono crepati. Però, Luca, allora lei consiglia a Parenzo per guarire da questo piccola costipazione causa sbalzo di temperatura, esatto, di infilarsi una bella peretta nel culo, questa è la sostanza, ripiena di? Con una soluzione di menta e acqua frizzante, che vedrà, non capisco la roba della menta. Menta e acqua frizzante, non ti preoccupare, ma adesso guarda, sto parlando seriamente, Luca, veramente deve fare così? No, scherzo. No, vabbè, allora dimmi, che cosa deve fare? Allora dovrebbe bere il latte con la grappa. Latte con la grappa? Veramente? Poi? Sì. E basta, aspettare, latte e grappa, sì. Ma non è latte e miele, no, ma latte e grappa. Latte e grappa, la grappa delle Alpi, la grappa degli Alpini. Provate a chiamare i secessionisti veneti che gliene manderanno sicuramente un fiaschetto omaggio. Latte e grappa, grazie generale, grazie. Un secondo. E domani? Domani sera eventualmente portare in trasmissione la signora Vanna Marchi, che vedrà che Parenzo tornerà. Combattivo. Lei dice ci vuole lo stimolo, ma domani, sì, a parte sì, che domani è sabato, medicina, per cui no. Ivana Marchi, bastone e carota, vedrà che Parenzo torna vivo. Traffico. Se non torna vivo, me lo mandi che ci penso io a va a bene, va bene. Che rimane. Traffico, ciao. Non si può morire dentro, e morendo me ne andare. Ora sono qui. E io penso che probabilmente invece mi succederà quello che non voleva, cioè è quello di invece lasciarci le penne sul corpo di una donna. Ah, cosa tu che pensi che morirai dispiace sul set? Secondo me sì. Cioè di infarto, dici tu, o di che cosa? Qualcosa di strano, me lo sento da sempre. E morivo senza te. Non si può morire dentro. Allora, a voi come piacerebbe morire? A Rocco Siffredi piace la bella morte, vorrebbe morire sul corpo di una donna, magari mentre sta scopando. Questa è la realtà dei fatti, cioè mi sento che alla fine morirò, non so di che cosa, ma morirò sul corpo di una donna sul set. E lo diceva sul serio, proprio alla vigilia, perché il 4 maggio compie 50 anni, lo diceva sul serio qui alla Zanzara. Però io faccio 50 anni la settimana prossima, quindi... Ah, auguri in anticipo. Grazie. Quindi io mi sono organizzato un bel film, i miei primi 50 anni. Ah, bello, complimenti. Sì, i primi 50 anni. Sto ancora decidendo come spegnere le candeline, perché 50 da piazzare non sarà facile, però ce la farò. Sì, 100%. Ci faccio un super film da paura. I miei primi 50 anni tutti insieme. Anche senza me, bella sì ma triste non sarai. Vedo che adesso le donne chiedono molto di più di prima, sono diventate molto più estreme e esigenti. E a me piace sempre giocare con la natura senza troppe rinforzine, e mi sono reso conto che purtroppo è diventato più pesante di prima. E avere no, non gliela faccio, no, e recupero, siccome mi sono messo scene su scene, non è più come una volta. A morire dentro. Ci sono con la voce, restando morire. Tu come vuoi morire? Ma sai che non ci ho mai pensato, francamente. Allontano questo pensiero. E voi come volete morire? Tu come? No, ma io ci ho pensato più volte. In realtà non me ne frega niente. Ma io vorrei, forse sì, così, addormentarmi Vabbè, quello è banale, che vuol dire addormentarti senza dolore e non risvegliarti? Che stronzata è? Quello tutti, no? Che vuol dire? Quello tutti. E beh, quindi così. Ma no, ma c'è un sogno. Come. Come Siffredi, ti piacerebbe morire addosso a una donna? Addosso alla donna che ami? Vabbè, quello certamente ha una sua poesia, certo, quello anche, sicuro. Sì, beh, però provocherebbe un dolore immenso anche dell'altra persona, quindi forse no. Morire dentro. Quello provocherebbe un dolore terribile alla persona con cui stai, sì, forse no. Oggi bisognerebbe mettere solo sta canzone. Si può morire dentro. Io? Sì? Pronto? Sì? Sì? E il conduttore? Eh sì, sono il conduttore, certo. Chi diavolo vuoi che sia? È una brava persona quello lì. Dennis D'Alecco, io voglio dire una cosa prima di Dennis D'Alecco, che è un intervento fondamentale. Voglio dire solo una cosa. Allora, in questo paese, ecco, ci sarà tutta questa prosopopea sul Papa che telefona a Pannella, l'amnistia, la situazione dei carcerati. Per carità, siamo tutti vicini ai carcerati che stanno male. La situazione delle carceri italiane è una vergogna rispetto a quella di altri paesi, ma la soluzione non è certo liberare i delinquenti. Allora, non è possibile che chiunque sia contro l'amnistia venga considerato un criminale che vuole far stare male la gente. No, io sono contro l'amnistia e penso che la telefonata del Papa a Pannella sia una buffonata, lo posso dire o no? Oppure devo essere tacciato di fascismo, eccetera eccetera. Se c'è un altro dillo pure. Io sono contro ogni tipo di amnistia, contro, fermissimamente contro. Non capisci un cazzo. E non capirò un cazzo, però è così. Sono fermi di secondo e credo che bisogna dare voce perché? Anche a questa parte d'Italia. Perché tu, ecco, tu solo per questo, cioè, tu solletti gli istinti più bassi. No, non ho capito, perché tutto quello che dici tu è perché ci credi e quello che dico io lo faccio per solleticare gli istinti. Non ho capito. Diciamo che la tua posizione è facilissima perché solletti. Ma perché è facilissima? Istinti. Quale istinti più bassi? Più sono dalla parte della gente normale che pensa quelle che non bisogna liberare i delinquenti, bisogna fare altre cose per liberare le carceri, capito? Liberare altre cose, fare altre cose, smettila. È una posizione molto facile. Ma che è molto facile? Invece la tua di liberare le carceri scarcerando le persone è complicata, ma smettila, dai. Sì, difendere il principio dell'amnistia è più difficile, sì, perché chiaramente vabbè, la gente ha paura come te. Ma che non c'è nessuna paura, non è la paura, no, non è la paura. Ma è chiaro, tu difendi i luoghi comuni più bassi. Sì, i luoghi comuni, gente. Vabbè, adesso stare dalla parte della essere contro l'amnistia è luogo comune, invece tu che sei a favore dell'amnistia è una posizione. Io sono sempre a favore dell'amnistia. Sì, certo. Ma tu, beh, certo, vabbè, certo, perché tutto il mondo che hai frequentato, perché ma tutto no, il mondo che hai frequenti ed hai no, frequentato è a favore dell'amnistia. Così, per lavarsene le mani. Per lavarsene le mani. A sinistra mica tutti sono a favore dell'amnistia. Dennis D'Alecco, Dennis, guarda, mi fa orrore quello che stai dicendo, mi fa orrore. Dennis D'Alecco. Perché è facilissimo quel che dici. Cioè, Dennis D'Alecco. Chiudi la boccaccia. Chi? Mi fate morire. Allora, vai, Dennis. Siete proprio due paraculi che fanno un prodotto proprio incredibilmente attraente. Vabbè, dai, forza. È definitiva, niente, e io l'ora che sono qua a aspettare di intervenire. E siete partiti dal 25 aprile su cose serie, siete arrivati alla moglie di Razzi, adesso state parlando di, poi ha parlato il medico legale, cioè, immaginate voi, cioè puntate un attimino su un discorso serio invece di rincoglionire tutti gli italiani, perché voi lo sapete. Scusami, benissimo. Dennis, adesso io sono partito calmo, cioè mi vuoi fare veramente incazzare? Cioè, tu vuoi dirmi che cosa devo fare? Cioè, a me non me lo dice, non me l'ha mai detto nemmeno mia madre, mio padre. È un consiglio, un semplice consiglio. Ma consiglio di cosa? Noi facciamo alto e basso. Ma rincoglionire la gente, si rincoglionisce a prescindere da noi. La smetta, se uno si vuole rincoglionire, si rincoglionisce. Dai. Ascolta un amico. Sai le potenzialità che hai. Guarda che l'Italia non ha bisogno di rincoglionirsi. Dennis, che cosa vuoi? Io non voglio né rinnovare l'Italia, né cambiare l'Italia, perfetto, né fare qualcosa che per l'Italia. Non me ne fotte nulla. Hai capito? Non me ne fotte nulla. Come tutti anche i paraculi italiani. Ma io non so se è un paracula, non ho questa missione salvifica. Non voglio fare il salvatore della patria, dico quello che penso. Cerco di essere un cittadino onesto, pago le tasse, pago le imposte, che sono tante, vorrei non pagarle pure io come vuole fare Sgarbi, ma purtroppo poi mi rincorrono i gabellieri, mi rincorrono quelli dell'Agenzia delle Entrate, di Equitalia, dunque preferisco ad occhi chiusi pagare le tasse, che sono troppo eccessive. Ma è proprio quello il problema, scusa Cruciani se ti interrompo, è quello il problema. Se una burocrazia ti blocca e ti vieta di fare il tuo lavoro, quello che fai tutti i giorni, quello che ti dovrà mangiare. Vabbè, allora? Tu cosa faresti? Ti massacrano, perdi il lavoro, non hai più soldi per pagare le tasse, cosa fai? Cioè, ti ammazzi? No, ti devi far rispettare, e come te ci sono tantissime persone. Però se tu mi dici che non te ne frega niente di cambiare il paese, cioè, allora sei un gran paraculo, scusa, senza offesa, sei un gran paraculo. No, io sono una persona normale che non è ipocrita, capito? Perché che non pensa con i grandi ideali di cambiare il paese, capito? Non sono ipocrita, questo è il punto. Ma scusa, allora tu vuoi dichiarare che i poteri che controllano il paese sono intoccabili ed è impossibile cambiare il paese. Ma dipende che cosa intendi per poteri, caro. I poteri sono, sai chi sono. Quali sono i poteri? Dimmi tu, illuminami. Certo, sei Radio 24, Confindustria, potentati, lobby, cioè banche finanziarie, Bilderberg. Hai fatto un grande minestrone e sei arrivato a Bilderberg. Sì, perché lo so. Vai a fare un film, vai a girare una sceneggiatura, va. Vai a girare una bella sceneggiatura. Intanto becchiamoci la borsa. Stai facendo un film. Non si può morire dentro. Pronto? E volendo me ne andare. E il conduttore? Ora sono qui. Può morire dentro. Pronto? Sì. E il conduttore? Sì, sono io. Abbracciami anche tu, ci sono troppe persone, se no io lo farei l'amore qui alla stazione. E io penso che probabilmente invece mi succederà quello che non voleva. Cioè? È quello di invece lasciarci le penne sul corpo di una donna. Ah, cosa tu che pensi che morirai sul set? Secondo me sì. Cioè di infarto, dici tu o di che cosa? Qualcosa di strano, me lo sento da sempre. Chi nascondi tu? Se c'è un altro dillo tu. Provincia di Milano. Anche se Cruciani, vai. Il gatto e la volpe, fantastici. Mamma mia, mi fate venire in mente. Aspetta, canti con me. Aspetta. Non si può morire dentro. Vai, dai. Non si può morire. No, fermo. Buone, tu fermo. Davide, vai. Allora, ma io voglio dire, le due Vanna Marchi e quell'altra, ma porca miseria, ma perché non le mettono dentro una stanza insieme a questi lavavetri e gli lasciano fare quel cazzo che gli pare a questi lavavetri? Ma com'è possibile? Adesso bisognerebbe scatenare i lavavetri verso il bar di Vanna Marchi, sarebbe stupendo. Ma queste due un esercito galera, di lavavetri. In galera devono stare. No, in galera ci sono state già, fermo. Ho capito, ma hanno rovinato, sai quante persone hanno rovinato queste due? E stanno ancora in giro e possono permettere di restiro il lavavetro, ma smettila. E poi volevo dire un'altra cosa. Ma che c'entra? Scusi, uno non ha diritto adesso perché è stato in galera, non ha diritto di dire che gli stanno sulle palle i lavavetri, scusami. Ho capito, tutte le persone rovinate che hanno rovinato e loro in maniera manipolatoria, occultando la verità, hanno permesso a queste persone di andare in rovina. Cosa dobbiamo dire allora? Ma ho capito, ma sono due cose diverse. Non è che chi è stato in galera ha pagato per quello che ha fatto, certo, condanne eccetera, sì, non si può permettere di dire, come sostiene Parenzo, che i lavavetri, che i lavavetri, no. Ma io mi posso permettere di dire che li vorrei vedere questi due dentro una stanza con questi 20. Sì, ma lei lo deve dire, lo deve dire. Ecco, Parenzo, okay, che dice invece, se ha ancora la voce? No, io cosa dico? Dico semplicemente che mi fa schifo che queste due leggere, con tutto il male che hanno fatto, è ovvio che roba è, che non è che gli puoi tappare la bocca, ma la gente non ha più dignità. Beh, per te sì, per te sì. No, io non voglio tappare la bocca a nessuno, io parlo di dignità, cioè queste due persone, queste due megere, sì, dopo tutto il male che hanno fatto, dovrebbero avere la dignità di starsene zitte e servire il caffè. Va bene, loro Aldo, esatto, da Lucca, Aldo da Lucca intanto. Pronto? Vai. Vabbè, parli allora, però Aldo, sono Aldo da Lucca. Ho capito, se non parla. Sono indignato e sono d'accordo con lei, Cruciani, sono anni che l'aspetto. Sono indignato per la liberazione, per il primo maggio, per i sindacati che sfilano sempre con queste bandiere rosse. Ho 70 anni. Beh, molto pochi oggi, molto pochi oggi. Le bandiere rosse. Molto pochi, molto pochi. No, sempre cosa meno, sempre meno, sempre meno. Ma ci sono ancora purtroppo. Le generazioni passano, sempre meno, sempre meno, per fortuna. I sindacati a Lucca sono in allarme perché le povere commesse lavorano nei giorni festivi, oddio, come oggi 25 aprile. Oddio, oddio, oddio mio, Dio mio, Dio mio. Quando c'è il lavoro fanno cortei. E allora? E quando non c'è si lamentano, ora fanno cortei perché le povere commesse lavorano il 25 aprile, ha capito? Lo so, lo so. C'è la crisi, c'è poco lavoro. Vabbè, loro Antonio fanno... da Roma, dai Aldo, basta, Antonio da Roma. Antonio? Antonio? Pronto? Dimmi, dai. No, ti volevo dire che avevo chiamato un anno fa per il Fulcio Berlusconi Renzi, mi avevi detto che ero un pazzo. Adesso, ieri Berlusconi ha dato la verità sulla da Vespa, sul colpo di Stato, sul primo, quello di Fini, però voi non ne avete parlato, come mai? Ma di che cosa? Ah, del colpo di Stato Fini. Ma avete tagliato Berlusconi sul colpo di Stato Fini? Poi dopo glielo mando in onda, sì. Ma siccome siamo... Berlusconi è convinto che Napolitano e Fini volevano preparare una specie di colpo di Stato. Con... Ma l'accusa significa che Napolitano ha voleva far cadere Berlusconi a vantaggio di Fini. Cioè tramava con Fini nel famoso voto del 14 dicembre per far diventare Fini presidente del Consiglio in caso, esatto, di caduta di Berlusconi. Ci sono 12 testimoni. Sì, secondo Berlusconi. Si 12 testimoni reale. Bisogna tirarli fuori, però, si 12 testimoni, amico mio. Non è che uno può dire ci sono 12 testimoni. La lista li tirasse fuori. La lista ce l'ha. Ma no, Berlusconi. Ma per carità, se Berlusconi ha la lista, va benissimo. Dopodiché tirasse fuori la lista di 12 testimoni, poi quali? Testimoni di cosa? Testimoni che erano sotto la scrivania di Napolitano, dove erano? No, c'era una riunione con Fini, c'erano... bellezza di 12 persone del partito del PDL, sì, in cui Gianfranco Fini ha messo in viva voce la telefonata di Napolitano per far sentire a tutti che quello che lui voleva fare non era una cosa personale contro Berlusconi, ma che erano gli alti sfere del potere. Vabbè, ma lei ne sa qualcosa? Glielo ho detto già quando c'è stata la cosa di Renzi. Ci sentiremo più avanti, gliene dirò un'altra. No, però Antonio, scusi un attimo, Antonio. Allora, lei è stato, non so, dalla voce io non ero arrivo. Io ero uno dei presenti. Dei presenti quando chiamò chi? Quando chiamò il presidente Napolitano a Gianfranco Fini. Cioè lei era presente quando Napolitano chiamò Fini? E chi c'era? Io gli posso dire i resti dei nomi li deve dare Berlusconi. No, beh, d'accordo. Lei era presente quando Napolitano chiamò Fini, giusto? Esatto. Fini mise in viva voce il telefono, sì, per far sentire a tutti, perché doveva convincere una parte del partito, sì, ad allontanarsi da Berlusconi e a far cadere il governo nella famosa, sì, che poi Berlusconi chiese la fiducia al governo. Cosa disse esattamente Napolitano in quel viva voce? E chiese la disponibilità a Fini, sì, di formare un nuovo governo. Cioè lei sentì le parole del Presidente della Repubblica Napolitano dire io sostengo Fini. Esatto. No, Napolitano chiese a Gianfranco Fini di stessa della sera se la sentiva di formare un nuovo governo. Lei l'ho sentita la viva voce di Napolitano, lei che era presente. Come l'hanno sentito tutti quelli che erano presenti a quella telefonata. E poi in quella Berlusconi o Gianfranco Fini si ha. No, beh, Fini chiaramente non lo dirà. Fini dovrebbe avere il coraggio di farlo. Come, ma quante persone c'erano in quell'occasione? Le persone erano circa una ventina, di cui la telefonata la sentirono in 12. In 12. Senta una cosa, oltre a quella frase lì, che cosa venne fuori da questa telefonata? No, fu una telefonata che Gianfranco Fini fece lui al Presidente per prendersi la fiducia dei presenti. No, d'accordo, ma oltre a quelle frasi là, cosa disse Napolitano? No, no, non allungo più il discorso perché poi tolse il viva voce. Va bene, Antonio, grazie. Grazie. Prego, grazie. Prego. Un ospite pronto, un ospite sentirete, ne dirà di cotte e di crude. Pannella intervistato dal TG2, sentite. La giurisdizione europea ed italiana, semplicemente questo, ed è un servizio che diamo all'Italia e credo che spero con l'aiuto di Papa Bergoglio e difendendo e ringraziando il Presidente della Repubblica e la legalità internazionale. L'obiettivo è semplicemente quello che con le due parole proibite, l'amnistia, l'indulto e via dicendo, dal PD, da una parte del PD, questo è l'obiettivo. Sono anni che mette a repentaglio la sua salute in nome di una battaglia non violenta. Sì. Poi c'è una parte del paese che però dice, ma a Pannella chi glielo fa fare se le risposte sono queste? Dico semplicemente che capisco sta roba. Ma questo è determinato dal fatto che come vi documentiamo a tutti, ma nessuno questi documenti sempre li legge, quello dell'apporto culturale teorico. Vabbè, che mi sono già scocciato. Comunque ha dei capelli inguardabili, ragazzi. Se lo guardate in televisione sembra veramente una roba, i capelli lunghi, una roba inguardabile. Inguardabile. Detto con tutto rispetto, abbiamo con noi Pino Scotto. Buonasera. Ciao, ciao a voi. Ciao Pino, come stai? Ma stavo sentendo ancora la favoletta di Fini col Presidente della Repubblica. Ancora questa menata. Pino, che devi fare? Pino Scotto conduce Database su Rock TV, è appena uscito il suo ultimo album Vuoti di Memoria. Vuoti di Memoria, per far sentire alle nuove generazioni i grandi brani del passato. Cantaci una canzone, Pino. Con grandi testi. C'è un pezzo di Battiato che canta Povera Patria. Come fa Pino? Come fa? Povera Patria. E poi? E poi non mi ricordo. Ma come non ti ricordi? In mezzo alle valli, in mezzo alle valli della Liguria che suono qua stasera. Senti, Berlusconi, hai visto ieri sera Porta a Porta? Sì, ho visto quando anche lui parlava della favoletta di Fini. Vabbè, ma non invecchia mai, Silvio. Hai visto com'è sta? Beh, oddio, ieri l'ho visto un po' mogio, in alcuni momenti, si vedeva invecchiato, ma tu che dici? Dove dovrebbe andare Beruto? Dovrebbe stare in galera? Dovrebbe, secondo me sì, per una questione di giustizia sì. Cioè in galera dovrebbe proprio stare in galera. Come metà del governo dovrebbe stare in galera. Come metà del governo, scusa metà Pino? Metà del governo dovrebbero stare in galera per tutte le cose che sono state fatte in questi anni. Cioè metà perché del governo Renzi parlassero, pure. Sì. Se tutti quanti parlassero, avessero veramente le palle per dire quello che è stato fatto in questi anni a questo paese. Sì. La metà dovrebbe andare tutti in galera, secondo me. E i parlamentari pure il Parlamento, tutti in galera? Tutti a casa, la metà in galera. E chi ci va al Parlamento al posto di questi qua? Guarda, io quello che dico io adesso, io sto appoggiando Beppe da un po' di anni, Beppe Grillo. Sì, questo sarà capito. Ecco, ma quello che voglio dire io agli italiani, no? Sì, noi abbiamo visto dire questa gente cosa ha fatto a questo paese. Sì. Proviamo con Beppe, no? Proviamo con qualcosa di nuovo. Ho capito, ma non è che uno può vincere da solo, prendere il 51% come vuole fare Grillo. Sicuramente, no, vinto, sicuramente, ma è la gente che dovrebbe farlo vincere. E la gente che dovrebbe capire che è ora di un cambiamento. Ma che dovrebbe fare la gente? Prendere in mano, andare verso il Parlamento, prendere i bastoni? Che dovrebbero fare? Secondo me una bella rivoluzione ci starebbe bene in questo paese. Che rivoluzione? Ecco, ma rivoluzione come, Pino? Una rivoluzione innanzitutto culturale. Poi? Far capire alla gente. Vabbè, ma non basta. Che bisogna. Si è capito che non basta. E dunque che bisogna fare? Allora io certe cose non posso dirle. No, dille che ti arrestano. A te ti arrestano. Cioè, per te bisogna pigliare i bastoni. Dovrebbero ritornare gli anni quelli veri. Cioè? Hai capito? Dove questa gente pagava sul serio. Come pagava? pagava col male, bro, facendogli male, sul serio. Cioè bisogna andare a menare i parlamentari, secondo te, i politici? Secondo me bisognerebbe fargli capire veramente cosa vuol dire alzarsi al mattino, come ho fatto io per 35 anni, andare a scaricare i camion in fabbrica da operaio. Fargli capire cos'è un lavoro vero, far capire cosa vuol dire oggi un genitore che è rimasto senza lavoro, a cui hanno rubato la dignità, non sa come portare da mangiare a casa i propri figli. Questo, tanto quella massa di infami ce l'hanno il lavoro, loro, i loro figli, i loro nipoti e tutte le loro generazioni del cazzo, hai capito? E dunque bastonate? Bastonate, per me, bastonate, non c'è altra soluzione ormai. Ecco. Però Pino, scusa, le bastonate fanno male? Fanno male, sì, ma bisogna far male, se no non capiscono. Senza far male non si capisce. Parenzo, un tuo commento sobrio al signor Pino Scotto, numero uno assoluto. Beh, Pino. Io cosa vuoi? È Pino Scotto, non è che gli puoi perché chiedere. Perché vuol dire? Pino Scotto che cos'è? Uno che non può parlare? Ma che non ha dignità? Che è meglio, questo, che è peggio però... dei Soloni, è peggio dei professoroni? È peggio delle persone che conosci tu? Ma non ho detto niente di tutto questo, dico semplicemente che Pino Scotto, che ci bisogna prendere i bastoni e massacrare i politici, lui lo dice, lui lo dicono qualche ascoltatore che chiama, non è che mi stupisce. No, lo dice tutta l'Italia, solo che hanno le palle per andare in piazza. Appunto. Ma di Renzi che pensi, Pino? È la stessa medaglia, di Berlusconi, è l'altra faccia della medaglia, ma è uguale, non cambia un cazzo. Non cambia nulla, Non cambia nulla. Ma secondo te poi che cosa deve cambiare in realtà, caro Pino? Sai cosa dovrebbe mandare? Ci vorrebbe una droga nell'aria. Una droga? Che entrasse, aspetta, cerca di non capire male. No, dimmi. Far respirare una polverina a tutti gli italiani. Sì. Una polverina che mette nell'animo e nel cuore la dignità, l'amore, il rispetto, la compassione. Ho capito, ma non è che con la polverina... Questo, solo così, se no non cambierà mai un cazzo. Perché il problema non è la politica, non è la musica. Il problema siamo noi, gli esseri umani, che siamo delle merde. Ah, tu dici che siamo un po' tutti dalle merde, siamo un po' tutti. E dove ci metti, facciamo danno. Per una figa e per 10 euro ci vendiamo il culo proprio. Ma anche tu sei una merda allora. Ma non siamo tutti così. Anche no. Tu sei una merda. No. Beh, ho capito, allora, tu sei uno degli eletti, gli altri, la maggior parte sono tutti delle merde, scusa. La maggior parte sì. Sono tutti delle merde. Però questo paese non farebbe così schifo. Cioè pensano tutti a che cosa? Ai soldi, alla figa. E poi posso spendere una parola. Dimmi Pino, dimmi. Io ho un progetto da 5 anni in Centro America. Se volete andare su internet, vabbè, adesso invece di andare su a farsi solo le seghe. No, io veramente non ci vado solo a farmi le seghe su YouPorn. Rainbow Projects.it. Ho capito, ma... andate a vedere in 5 anni cosa ho fatto per quei bambini con pochi soldi. Ma si può andare? Pochissimi soldi. Si può andare anche su YouPorn oppure è vietato? Anche lì, ma io ci vado spesso su YouPorn. Ci vai? E che ci vai a fare su YouPorn? A farmi le seghe. Come no, tutti. Dai, Pino, su. Ma non hai bisogno. Quanti anni hai? 65 ottobre. Vabbè, 65 forse sì, qualche gitarella su YouPorn la si faccia. 65. Mamma mia. Ciao Pino, a presto, ciao. Ciao a voi, grazie. Ciao, bocca al lupo. Giovanni da Como. Chi c'è? Bauro che sta sbroccando lì, che fa? Bauro? 8:30 insieme a Milan. Parla Milan, sentite. Il diritto al lavoro, nessuno vuole cambiare quella parte, ma quella Costituzione è stata scritta nell'architettura dello Stato in un periodo in cui si voleva evitare giustamente la possibilità che ritornasse il fascismo e si sono utilizzati i pesi. Milan, cambiati la giacca! Momento, dopo 70 anni non permettono di fare nulla, di non cambiare nulla di questo paese. Qui nessuno vuole toccare la prima parte. Ma tu sei davvero convinto che sia la Costituzione che sta immobilizzando questo paese? O forse il fatto che grande di dibattito Bauro Milan sulla Costituzione. Io sono dalla parte di Milan, ovviamente. Chi c'era qua? Ah, Giovanni, sì, Giovanni. Vai che dobbiamo chiudere, Giovanni. Pronto? Ti sentite? Sì. Allora, dunque, volevo dire, io non capisco cosa. C'era un ascoltatore prima che si lamentava che voi parlate troppo di Berlusconi, queste cose. Ma effettivamente è meglio così, perché voi riuscite a parlare solo di quello. Non parla sul chiacchiericcio da bar, perché quando parlate di cose serie poi non avete gli strumenti culturali. Non abbiamo gli strumenti culturali, lo dica sua sorella, no, innanzitutto. No, è così. Perché per esempio, mi faccia un esempio. Esempio, lei ha parlato della resistenza. Sì. Mi dice in generale gli americani. Ma allora in generale anche l'Unione Sovietica l'ha vinta. No, mi lasci dire, stia zitto. adesso parlo io. Si è zitto un cazzo. La guerra si è zitto la un cazzo. Solo l'Unione Sovietica è arrivato lui, solo l'Unione Sovietica. Giovanni, no, purtroppo la trasmissione è finita, però riprendiamo una prossima volta, non si preoccupi, non c'è problema. Comunque, la novità degli americani e non sovietici, quelli che erano insieme contro i nazisti e i fascisti, questo volevamo dire, ma ci sentiamo lunedì. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ho capito. Sì, ciao. Radio 24. La passione si sente.